la notte prima degli esami. Che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Notte. 1984, ero talmente agitato che mi stavo dimenticando di andare a fare l'esame orale. Hanno dovuto chiamarmi a casa, mi ha chiamato la mia prof di storia e filosofia, che era membro interno della commissione, dicendomi: ehi, ti stiamo aspettando. Iniziamo con questo messaggio lasciato al sito radio24.it questa notte prima degli esami, in collaborazione con studenti.it. 3 ore in diretta per raccontare la vostra maturità, voi che l'avete fatta negli anni passati, voi che vi state preparando, perché domani ci sarà la prima prova. Non solo, tanti consigli, tante dritte, tante curiosità. Con me Maria Piera Ceci, che è la voce della scuola qui a Radio 24. Ciao Maria. Ciao, Piera. Insomma, sono ore intense queste, perché... Sì, assolutamente sì, mi stanno arrivando dei messaggini assurdi anche da alcuni maturandi. Mi è arrivato un messaggino di un ragazzino che si è dimenticato di fascicolare la tesina, quindi non mi chiedeva un dorso, un dorsetto, ho detto: ma io sto entrando in diretta, non posso. Insomma, vale un altro che non aveva il materiale per domani, il vocabolo, non trovava il vocabolo. Sono nel pallone, come è giusto che sia. Insomma, è successo anche a noi. E abbiamo il piacere di aprire questo speciale con chi metaforicamente prenderà per mano domani questi quasi 500.000 maturandi e anche diverse decine di migliaia di insegnanti, perché voi anche per loro sono giornate impegnative. Diamo il benvenuto al ministro Stefania Giannini. Buonasera ministro. Buonasera a tutti. Buonasera ministro. Allora, che notte buonasera. È questa per un ministro? C'è un po' di ansia, un po' di paura. Io sono molto solidale con i 500.000 studenti, perché dal 22 di febbraio dell'anno scorso sono in maturità permanente, quindi diciamo che rivestire questo ruolo mi mette in una condizione sostanzialmente di una prova al giorno, per cui sono assolutamente nel cuore di tutti gli studenti e anche degli insegnanti, che insomma per altro verso hanno il loro esame da affrontare. Certo. Ministro, avevo una curiosità, ma insomma, lei ha timbrato le prove che domani insomma i ragazzi si troveranno ad affrontare? Certo, sì, è doveroso. Sa come funziona, c'è un grande lavoro di squadra, naturalmente nel piena riservatezza, anonimato, e sono tante le proposte che la commissione di esperti formula per il ministero, e poi c'è una scelta finale su una griglia molto ristretta, e insomma si cerca di arrivare alle soluzioni più adatte. Io sono convinta che anche quest'anno tutti i ragazzi, domani è la prima prova, quella di italiano, troveranno la traccia che gli permette di dimostrare quello che hanno dentro, che hanno imparato. Io, guardi, penso che gli esami si fanno in due modi possibili, per capire quello che uno sa oppure per scoprire quello che uno non sa, e invece la maturità è l'esame in cui c'è la possibilità di dimostrare quello che uno ha maturato appunto in 5 anni importantissimi della vita. Quindi io invito i ragazzi a stare il più possibile con la testa libera stasera. Si chiama esame di Stato, però questa parola maturità secondo lei ha ancora valore? Sì, nel nostro sistema ha ancora valore, perché non è un esame che va solo a vedere le competenze specifiche di settore, è un esame che sintetizza, no, la fine di un percorso. Per questo c'è una commissione anche interna, per questo c'è un tema, no, una prova in cui si deve un po' dimostrare una riflessione. Quest'anno tra l'altro abbiamo scelto volutamente di mettere meno materiale, no, di supporto alla traccia, è una traccia molto chiare, e quindi più spazio ai ragazzi per pensare e scrivere quello che è la loro visione sulla traccia scelta. Tra l'altro quest'anno anche tanta musica, tanta danza, perché... Sì, quest'anno poi ci sono le vere novità che riguardano la chiusura del ciclo, diciamo, innovativo che è stato appunto iniziato con la riforma di 5 anni fa del ministro Gelmini, e quindi abbiamo il settore musicale, quello coreutico, e lì avremo appunto i primi aspiranti musicisti, i primi danzatori che avranno la possibilità di dimostrare quello che hanno appreso, che hanno anche, certo. Sì, anche qual è poi in questo caso in particolare la loro voglia di esprimere la loro creatività in questo settore nella vita futura. Ministro, non le chiedo cosa ha fatto la notte prima dell'esame, le chiedo però cosa ha fatto dopo l'esame. Dopo l'esame cosa ha fatto, se lo ricorda? Dopo l'esame fame sì, ma ho fatto un'estate tutto sommato tranquilla, non ho fatto il viaggio, no, molti miei compagni avevano fatto, allora era molto di moda il viaggio in treno. No, l'Interrail, grazie, non mi veniva esattamente l'Interrail, quello che oggi invece si fa con i low cost in giro per l'Europa. No, no, io ho fatto una vacanza di mare e devo dire, insomma, ne ho anche un bel ricordo. Sardegna, mi sembra, sì. Okay. Ministro, ma ce lo dice quanto ha preso? 58 sessantesimi. C'è qualcuno che è stato più bravo di lei? Ma c'è sempre qualcuno che è più bravo, eh? Renzi oggi ha detto porta a porta di aver preso 60 sessantesimi. Io ho anche visto che ha detto che ha fatto un greco disastroso. Io invece ho fatto un'eccellente prova di latino, quindi bisognerebbe capire com'è che con l'orale ha recuperato tutti questi punti. Ma insomma, sì, perché forse non c'erano ancora i crediti e tutto quell'ambaradan. Però, ministro, io ho fatto eccellenti scritti e un orale un po' più meno brillante. Renzi ha detto anche qualcos'altro porta a porta? Sì, che queste assunzioni di 100.000 precari a settembre potrebbero non scattare perché ci sono 3.000 emendamenti e così non si va avanti col DDL scuola. Il Presidente del Consiglio credo che ha opportunamente richiamato a un realismo, no? A cui dobbiamo, dal punto di vista del governo, richiamare il Parlamento, perché effettivamente gli emendamenti anche al Senato sono tantissimi, sfiorano i 3.000. E i tempi stringono. Io ricorderete che dal punto di vista della macchina organizzativa avevo dato una scadenza molto molto già generosa in termini appunto di fattibilità, che era il 15 di giugno. Ora sicuramente si travalica, è già avvenuto questa data, e chiaramente si tratta di capire qual è anche l'atteggiamento delle opposizioni, insomma, di fronte alla volontà di andare non solo bene ma anche molto presto in porto con questo provvedimento. Però il governo esclude ancora di procedere per decreto per queste assunzioni, come chiedono anche i sindacati? Ma vede, la nostra era e continua ad essere fermamente la volontà di un grande dialogo sulla scuola. L'abbiamo dimostrato perché è un anno, insomma, credo che nessuno possa negare che mai si era fatto nel nostro paese, ma forse nemmeno altrove, un dibattito così diffuso, anche molto animato, come sapete, sui singoli temi, perché si tratta di un progetto educativo che comprende anche crucialmente la fine di questa piaga del precariato storico, ma non solo quella. Quindi fare uno stralcio per l'assunzione significa naturale completamente lo spirito di questo provvedimento. Quindi noi dobbiamo cercare di arrivare a conclusione con tutte le doverose anche forme di miglioramento che la Camera per esempio aveva già portato, che il Senato può utilmente recuperare o comunque rinnovare, ma mettendo insieme tutto, insomma, quindi l'autonomia scolastica, che è il nostro obiettivo fondamentale per rendere più snello e meno borbonico questo sistema. Insomma, quello di Renzi è un avvertimento alle opposizioni, però queste assunzioni ci saranno? Ma è un richiamo a una responsabilità generale condivisa e, ripeto, a un realismo che, ecco, dal mio punto di vista ho più volte richiamato. È chiaro che se lo fa il Presidente del Consiglio, la sua voce sicuramente più ascoltata e autorevole sugli obblighi, insomma, che abbiamo davanti a noi per mantenere i nostri impegni, cosa che faremo sicuramente con i tempi che il Parlamento ci assegnerà. Però andremo anche a verificare come ha fatto a prendere questo 60-60esimi, dicendo bisogna approfondire, assolutamente. Bisogna vedere la parte. Beh, non ci stupisce che il Presidente del Consiglio si sia distinto nella brillantezza orale. Nessuno si stupisce. Grazie, ministro. Grazie a voi. Notte prima degli esami. In bocca al lupo, mi faccia dire, non si può dire altro perché sennò si scappa la scaramanzia. In bocca al lupo a tutti, ragazzi. Grazie da parte loro. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Radio24.it. E se volete scrivere invece il vostro ricordo, 800-24-0024 per intervenire in diretta. Il traffic poi si parte fino a mezzanotte. Notte. La notte prima degli esami. Procedendo in avanti, senza passare dalla saggezza. Masticando una gomma al gusto di bicicletta che non finisce mai, neanche se te ne vai, e lo ridico ancora per impararlo a memoria in questi giorni impazziti di polvere e di gloria. Giorni, giorni impazziti sono quelli che canta Jovanotti negli Immortali, la playlist della serata, è un po' la playlist della maturità 2015. Ci sono varie classifiche dei pezzi più ascoltati durante lo studio e ve li abbiamo selezionati. Questa sera ci accompagneranno in questa diretta, diretta in collaborazione con studenti.it, un po' il punto di riferimento virtuale ma anche reale per tutto quello che riguarda il mondo della scuola e in questi giorni ovviamente il mondo degli esami di Stato. E noi ci colleghiamo in diretta con la redazione di studenti.it e con noi c'è anche quest'anno Valeria Roscioni. Ciao Valeria. Ciao Federico e buonanotte prima degli esami. Eccoci qua pronti per voi, una notte lunghissima, perché insomma sono notti lunghissime tutte queste, perché insomma avete veramente pubblicato tantissimo e state pubblicando tantissimo e siete pronti domattina per svolgere anche voi le tracce al volo appena si inizieranno gli esami. E, Valeria, come sempre andremo un po' a sondare quello che succede in rete in queste ore. Il Tototracce, il grande tormentone, vero? In queste ore noi della redazione comunque abbiamo aperto un gruppo nuovo esame di maturità da mesi e adesso abbiamo 25.000 maturandi. Ti lascio immaginare cosa campione. Sta accadendo in questi minuti. Però per loro il Tototracce è quasi sicuramente una tematica che aveva a che fare con l'Expo. Mm-hmm. Sono certi, nonostante già l'anno scorso sia uscita l'alimentazione, quindi c'è chi dice che questa cosa non è possibile, però sono abbastanza certi che uscirà qualcosa che abbia a che fare con l'alimentazione oppure con il terrorismo. Qua entriamo in un tema un po' più spinoso, diciamo. Invece tra gli autori c'è un grande testa a testa, mm-hmm. perché il problema è che da una parte c'è questa cosa che il ministero di solito alterna la prosa alla poesia, quindi l'anno scorso è uscita poesia, quest'anno dovrebbe uscire la prosa. Però tra gli autori in cima al toto tema c'è Dante, quindi qualora dovesse uscire una prosa di Dante io non vorrei mai essere nei panni dei maturandi. C'è da dire che credo sia al 100% la casistica in cui il Tototracce poi non abbia coinciso con le tracce reali, vero? C'è sempre questo fantastico gioco, ovviamente, però il Muir riesce alla fine sempre a sorprendere nei titoli, questo dobbiamo dare atto. E Valeria, allora ci accompagni in queste tre ore, magari poi nei prossimi collegamenti, oltre a raccontare quello che sta accadendo in rete, ci dà anche qualche chicca e i consigli anche che si possono trovare su studenti.it. Ok, a fra poco. Ovviamente, ciao. 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure radio24.it. O ancora, se avete voglia di raccontarci la vostra maturità, così come l'avete vissuta anni fa, oppure come vi state preparando, come state vivendo queste ore, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. E noi apriamo la nostra bella, bellissima giostra di ospiti con una scrittrice amatissima, oltre che bravissima. Diamo il benvenuto a Silvia Avallone. Ciao Silvia. Ciao, buona serata. Grazie per la bella presentazione. Quanti vorrebbero avere le tue capacità domani mattina davanti a quel foglio bianco? Ma in realtà all'epoca, cioè nel 2003, quando toccò a me fare il tema, me la sono vista abbastanza brutta, se devo essere sincera. Sì, c'era un po' di panico anche, vabbè, insomma, e poi quel panico costruttivo, no? che ti dà la giusta spinta. Che ricordo hai della tua notte prima degli esami, o comunque dei giorni prima dell'esame? In realtà ho un ricordo bellissimo, infatti mi sta venendo una malinconia per quella stagione, perché appunto era il 2003, era l'estate più calda della storia, mm-hmm. e io ero chiusa in casa e non abitavo a Piombino, quindi non distante dal mare, quindi mi sentivo attraverso la finestra tutta la scorribanda di motorini che se ne andavano in spiaggia e io ero lì a patire col ventilatore, sudando. 80 camicie e ho studiato veramente come una pazza in modo epico, però è questo il bello, questo senso epico del sacrificio che fai per la maturità. Proprio una prova anche fisica, no? Perché, perché ci metti anima e corpo e non è solo un modo di dire. La rifaresti? 100 volte, ah, 100 sì. Volte, perché era comunque il momento di svolta della vita, un momento di svolta come poi ce ne sono pochi nell'arco di una vita intera. Sapevo che dopo la maturità sarei partita, avrei vissuto da sola in una nuova città, avrei cominciato l'università, quindi ecco il momento di passaggio che ti segna, segna per sempre. Questa era l'adrenalina. Poi certo, c'era l'esame, c'erano i voti, c'era il tema e quindi anche questo creava molta molta strizza, ma la strizza che poi ti fa sentire vivo e combattivo. Mm-hmm. E ti hanno chiesto quale sarebbe la tua traccia ideale nella prova di attualità di domani. Hai parlato di futuro? Ma sì, perché se ne parla tanto, ma se ne parla in maniera veramente sfumosa, cioè nessuno ha davvero un progetto concreto, ma anche lungimirante, d'ampio respiro su cosa l'Italia deve essere, soprattutto in questo momento, in quest'epoca di transizione folle. E noi vediamo che l'Italia è un paese a crescita zero, a nascita zero, ed è un paese sostanzialmente di vecchi per vecchi. Io girando per le scuole ho incontrato solo ragazzi che dall'Italia se ne vogliono andare a malincuore, arrabbiati, perché comunque lasciare il proprio paese è comunque uno strappo se non lo fai davvero per scelta. E quindi la sfida è tenere i giovani, e poi naturalmente la sfida è anche saper accogliere, saper essere un paese che può essere approdo anziché deserto da cui fuggire. Quindi io chiederei davvero ai ragazzi su cosa puntare, cioè quali sono le forze, quali sono le mentalità, quali sono i settori per costruire un'Italia che non si desertifica ma che può essere abitata. Mm-hmm. Questa è la traccia ideale di Silvia Vallone. Grazie davvero Silvia per essere stata. Grazie a voi, in bocca al lupo. Certo, noi cerchiamo di essere un po' megafono di questo grande in bocca al lupo. Ciao e buona notte prima degli esami, Silvia Vallone. E mi tocca anche viaggiare fra le valli, steppe, mare di province in espansioni, ambienti, clima, tradizioni, grammatica con punti, spazi, lettere ed accenti, tutti i bei ragionamenti di otto renche sui pazienti. Spengo anche quest'ultima fiammella, chiedo aiuto a Galileo che ti trovi in qualche stella. Maturando a latitante, quasi ormai perennemente assente dalla vita di questa. Loro sono i The Groover, una band esordiente, sono ragazzi siciliani, questo è il loro primo singolo ed è ovviamente dedicato alla maturità. Tu invece prendi appunti, non contenta, fai riassunti, poi ripeti ad alta voce per cercarne altri spunti. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Poi sta anche spopolando su Twitter l'hashtag notte prima degli esami, anche lì potete raccontarci la vostra maturità. Notte, la notte prima degli esami. Questa volta fa bufera e ha fatto il cielo nero e sembra fare a chi è più duro, c'è sempre una canzone. Per caso o per fortuna c'è ancora una canzone bagnata un po' nel vino. C'è sempre una canzone, anche Ligabue nella hit della maturità 2015. I vostri messaggi sul sito radio24.it. Solamente 2 anni alla mia notte prima degli esami, la ricordo come se fosse ieri, una notte insonne, piena di emozioni per la paura, l'ansia, il terrore di dimenticare un anno speso a studiare come non mai, le lacrime dovute alla dall'agitazione, ma soprattutto causate dalla consapevolezza di essere giunti alla fine di un percorso favoloso e che quella notte stava per segnare un traguardo. Radio24.it oppure 349-238-6666 per i vostri messaggi. Se invece volete chiamarci in diretta, 800-24-0024, come ha fatto Riccardo da Firenze. Ciao Riccardo. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Quanti anni sono passati dalla tua maturità? Sono passati un po' di anni perché ne ho 40, quindi una ventina anni circa, roba del genere. Che ricordo hai? Ecco, allora, ricordo è particolarissimo perché in realtà comincia un pochino prima, cioè praticamente cercherò di essere più veloce possibile perché è una cosa un po' lunga. Vai. Io ero stato bocciato, ovviamente avevo fatto dei rinvii, ma questi rinvii non ho ben capito, anzi non si è mai capito, questo rinvio non andò in porto e praticamente mi arrivarono i carabinieri a casa dicendo: guardi, lei è remittente alla leva, si deve presentare immediatamente. Al rinvio al servizio militare? Certo, il rinvio al servizio militare. Praticamente io sono stato trasferito immediatamente di Scaglione, compagnia cantante, e sono finito in un'altra città. Quindi io dovevo comunque fare la maturità, assolutamente, e quindi chiaramente ho dovuto interrompere la mia, quel momento stavo facendo la quarta, sì, e la stavo finendo la quarta, dovessi smettere immediatamente e andare a fare militare. Sono andato a finire, per fortuna, il servizio civile, sono riuscito a evitare questa cosa perché non volevo fare militare, e finisco insomma in una città vicina, insomma, riesco a, chiedendo aiuto anche al preside di questa scuola, di poter frequentare, di poter alla fine fare il diploma, perché io uscivo dal militare, comunque dal servizio civile. Questo preside molto carino accetta, insomma, c'erano delle possibilità che me lo permettevano, quindi io studio e arriva il momento della maturità, peraltro bellissima, perché ho fatto un anno veramente duro, pesante, insomma, sentito, perché tra il servizio civile più chiaramente gli studi e compagnia, era molto importante, però un anno bellissimo, veramente molto bello. Insomma, quando a un certo punto io arrivo all'esame di maturità, tutti i miei professori, che oramai mi conoscevano, sapevano che io facevo il militare, ma mi dicono: non si preoccupi, stia tranquillo, vedrà che andrà tutto bene. Però erano molto carini, io ero veramente molto preparato. Insomma, trovo come presidente della mia commissione la mia professoressa d'italiano dell'anno precedente nella mia scuola di partenza, dove venni praticamente strappato, che pensavo fossi scappato perché avevo terrore di lei, e quindi mi distrusse a questa maturità, fece di tutto per distruggermi, fino a che non le disse: guardi, lasci fare questo ragazzo che ha studiato, oltretutto ha fatto il doppio lavoro perché ha dovuto fare il servizio militare. Lei rimase molto colpita, però questa era la mia maturità. Danno e beffa, un libro cuore così, con finale a sorpresa. Grazie Riccardo, ciao. Grazie, buonanotte, ciao, buonanotte, ciao, prima, ciao, degli esami. Ciao, ciao. Mi chiedo come fa, come ci si sentirà a vivere negli occhi di un neonato. E in tanti giorni cambiano idea sulle stagioni, e le stagioni cambiano la pelle, il tempo, i tempi cambiano. Sì, cambiano i tempi, è un po' un tormentone anche di questa linea, di questo segno, di questo traguardo, così come è stato chiamato prima, che è l'esame di maturità. Almanac, dall'ultimo disco, Almanacco del giorno prima, per la notte prima degli esami, diamo il benvenuto a Dente. Ciao Dente. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a te, come stai? Sto bene, tutto a posto. Cantautore, quindi anche tu artista, anche tu abituato a giocare con le parole, avrai un ottimo ricordo dell'esame di maturità. Oddio, ottimo direi di no, però perché erano la scuola sbagliata fondamentalmente. E quando te ne sei accorto? Quando te ne sei accorto che era la scuola sbagliata? Me ne sono accorto non troppo tardi, nel senso che verso la terza quarta mi sono accorto che forse avevo un po' sbagliato, e se ne sono accorto anche i professori, che infatti mi hanno cacciato dalla scuola dicendomi appunto questa frase: ci dispiace, hai sbagliato scuola, vattene. Quindi per te l'esame di maturità era veramente la via di fuga? Sì, è stato proprio il vedevo questa luce in fondo al tunnel. Io sono perito elettronico, e quindi all'esame di maturità ho fatto un bellissimo tema che dovevo parlare di matematica e letteratura ed ero felicissimo. E, ho fatto un bellissimo tema e un orribile compito invece tecnico. Certo, sì. Dove avevo fatto proprio delle cose anche molto simpatiche, del tipo che copiavo gli schemi dai vicini, poi scrivevo sotto questo non so cosa sia, ma l'ho copiato dal vicino che è bravo e quindi vorrà dire qualcosa. Insomma, insomma, simbolo d'onestà, eri comunque coerente ed onesto, e questo coerente. Non è stato però apprezzato. Vabbè. Hai appena pubblicato un libro di favole con Bompiani, favole per bambini molto stanchi. Ebbene sì, perché dici tu? Perché, esatto? Perché mi sono venute queste favole, mi sono venute un po' per gioco, ci sono scritte tantissime, sono favole molto molto brevi, infatti il titolo Favole per bambini molto stanchi sta a indicare appunto il fatto che se vuoi far addormentare un bambino con queste favole, il bambino diventa molto stanco già di suo, okay. Perché se no insomma, sono molto molto brevi. E ne ho scritte tantissime fino a che ho detto ma si potrebbe quasi fare un libro. Uh-huh. E così è stato. E così è stato. Ne hai qualcuna a tema? Ci puoi leggere una favola? Sì, ce ne sono un po' a tema. Il libro è diviso in capitoli. Questa favola che ti leggo, sempre molto breve, fa parte del capitolo delle favole cattive. Sì. Si intitola Punti di vista e dice così. C'era una maestra molto puntuale, sempre puntuale. Un giorno arrivò a scuola in ritardo per via del traffico, dello sciopero, non lo so. Mi spiace, disse davanti alla classe. A noi no, pensò la classe. Fine. puntuale, insomma, hai detto che erano brevi. Sono brevi. ne hai una seconda così da donare allo studente? Potrei avere questa seconda che fa parte del capitolo Favole tristi. Non l'abbiamo capito. Favole tristi, ed è anche un augurio di non trovarsi in questa condizione domani, ragazzi che devono scrivere. E si intitola Tema libero e dice: c'era un banco verde, un foglio bianco, una penna nera, ma idee di nessun colore. Fine. È un ottimo incipit, credo, per il tema di maturità. Grazie davvero, Dente, complimenti per la tua arte, invece, perché con le parole ci sai davvero fare. Ciao e buonanotte prima degli esami. Ciao. E andiamo in provincia di Modena da Roberto, che ha composto l'800 24 0024. Ciao Roberto. Buonasera Federico e buonasera a tutti gli ascoltatori. Che ricordo ti porti della tua maturità? Io sono di quella generazione che festeggia i 30 anni di dall'esame proprio nel 2015, e quindi il mio esame fu tenuto da una colonna sonora che era quelli di quelli della notte. Ah, certo. Ed è stato un esame comunque favoloso, nel senso che io non ho mai avuto grossi problemi ad apprendere, fu un esame senza difficoltà. Però c'è un aneddoto carino che vorrei raccontare, sì, se mi permetti, certo. Perché io sono un gemello. Uh-huh. E noi avevamo fatto la stessa scuola, gli stessi studi, nonostante ognuno seguisse poi i suoi modi. Però in quegli anni la seconda materia orale che si portava, che veniva indicata dallo studente, ma non è detto che la commissione l'avrebbe accolta, accadde proprio così. Che sia a me che sia a mio fratello ci furono cambiate le seconde materie, ma invertendole. Sì, ok. E allora venne subito in mente: noi non siamo distinguibili. No. Salvo da chi non ci conosce, no. che potevamo anche eventualmente. La cosa non è stata necessaria perché eravamo stati anche abbastanza furbi di invertirci le materie, ma di averle studiate tutte e due comunque bene. Ah, ok, quindi ci avete provato, insomma. No, non ci abbiamo però provato. Però la tentazione c'è stata. E molti ce la suggerirono, però insomma, alla fine andò comunque bene. Fummo i due studenti con il massimo dei voti, gli unici di tutto l'istituto. E quindi questo te lo dice che non ce ne fu bisogno. Eccola qua, quelli della notte prima degli esami. Sì, ci sta, è fantastico. Prima dell'esame. Se mi permetti, nel fare in bocca al lupo a tutti gli studenti e di dire che di star tranquilli, vorrei chiudere con una piccola cosa che va dopo gli esami. Sì. e vorrei dedicarla ad un target di ragazzi e di ragazze preciso, a quelli a cui non piace la matematica, ma che però sentono di avere qualcosa da poter esprimere con la loro creatività, con le loro idee, con la loro fantasia. Bene, la matematica sappiate che ve lo permette, e non c'è bisogno di persone come oggi di ragazzi che si avvicinano a questo per imparare il linguaggio della programmazione col PC. Okay, invito veramente tutti a quelli che non hanno un'idea precisa di quello che vorranno fare, di quello che vorranno seguire. Spero che qualcuno ci si dedichi, perché ce n'è un bisogno, e avranno la possibilità di lavorare e di guadagnare e di non avere grosse difficoltà. Un inno alla matematica e al coding. Sì, grazie davvero. Ciao Roberto, ciao. Ci fermiamo, il traffico poi. Il traffico, vero? Sì, ok, scusate perché con gli orari è ancora qui in diretta con La Notte Prima degli Esami. La notte prima degli esami. Che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Notte. Ossa rotte in questa notte prima degli esami. Radio24.it per i vostri messaggi. 349-238-6666 per i vostri sms. 800-24-0024 per intervenire in diretta. Queste tutte le coordinate per interagire con noi. L'hashtag è notte prima degli esami. E poi le tante testimonianze, i tanti ricordi di chi l'esame lo ha già fatto, tipo Fabio Fazio. Ciao Fabio. Ehi, hey, ciao, che piacere sentirvi. Buonasera a tutti. Sì. Piacere nostro, grazie. Ma per ma grazie a voi, scusate anzi l'inconveniente. Figurati. Eccomi qua. Questo mamma mia vuol dire che sei uno di quelli che ha un ricordo brutto dell'esame, uno di quelli che ha sognato per anni. Intanto un ricordo, e sì, guarda, io l'ho sognato molte volte l'esame di maturità dopo, ma è un ricordo molto vivido, perché il sogno è sempre lo stesso, adesso è un po' meno frequente, ma era sempre lo stesso, che io mi veniva portato un compito scritto di greco, sì. Invece uscì latino, grazie a Dio, quando feci maturità. Invece nel sogno arriva greco. Io ancora lì con la mia versione di greco, non riesco a tradurla, come sarebbe stato nella realtà, e la mia giustificazione è che a un certo punto mi sollevo dicendo: ma scusate, io mi sono laureato, se mi sono laureato vuol dire che io ho già dato la maturità e questa cosa allora mi assolve dall'angoscia. Ma no, la mia maturità, tanto stiamo parlando del 1983, sì. E mi ricordo benissimo tutta la notte prima degli esami, perché sai che allora c'erano, non so se lo sai, c'erano due materie, si portavano certo. All'orale, una la sceglieva il candidato, che eravamo tutti poveracci noi, e una in teoria la doveva scegliere la commissione, ma di solito la commissione se ne stava alla seconda materia scelta dal candidato. Esatto. Nella mia classe cambiarono materia a due persone. Uno dei due ero io. Attenzione, quindi io avevo portato filosofia di prima materia e greco di seconda, e mi diedero filosofia ovviamente e italiano, mentre a quello che aveva scelto italiano diedero greco. Okay. Tranne che il mio problemino della notte prima degli esami fu che Dante significava il paradiso in quell'anno nella letteratura italiana, e io non avevo fatto niente. Per te fu l'inferno, niente. Proprio. Niente, quindi feci un paradiso che di fatto assomigliava all'inferno in quella notte prima degli esami, e studiai Dante. Dopodiché il giorno dopo mi interrogarono la maturità e la domanda fu su Pascoli. Parlai, diciamo, con dovizia di particolari della solita cosa del fanciullino. E alla fine della cosa mi disse: vabbè, è tardi, ci sarebbe Dante, ma vabbè, lasciamo stare. Io dissi: ma sì, lasciamo stare. E quindi anche se non sarei ancora lì. Hai assecondato. Ma sì, lasciamo stare. Alla fine ho avuto fortuna, però partendo dalla sfortuna, perché proprio cambiare la materia è una roba, è un tuffo al cuore. Quando arrivi lì e leggi sulla porta della scuola che ti hanno cambiato la materia, è una cosa che dici: non è possibile. Un'ingiustizia, esatto. Era vissuta proprio. No, sono tornato indietro a vedere se era vero, capito? Sì. Mamma mia. Ascolta, ma lo ricordi anche come comunque un momento di passaggio, un punto d'arrivo o un punto di partenza, la maturità? Che... Ma sai, con gli occhi del tempo che passa si ricordano le cose in modo diverso. No, certamente di passaggio, avevo ben presente che era finita una stagione della vita. avevo una magliettina azzurra che già era estate, la vespetta davanti a, parcheggiata davanti al liceo, e l'idea insomma che da quel momento in poi diventava grande, perché sì, a quel punto dovevi scegliere tu. Le scelte non erano più obbligatorie, erano quelle che facoltative, per l'appunto. Dopodiché, insomma, allora sembra di essere grandi quando si ha 18 anni, adesso non ci si ricorda neanche di averli avuti, per fortuna, o per sfortuna, non lo so, ma insomma, però che fosse un momento di passaggio, sì, lo avevo ben presente. Fabio, questa sera stiamo dando un sacco di consigli ai ragazzi, voglio sfruttare invece la tua presenza per cercare di dare un consiglio anche ai professori, visto che anche loro comunque sono attori super protagonisti di questo momento. Come si fa la domanda giusta, ovvero come si fa una domanda? Ma io credo che sia più interessante, insomma, io avrei voluto fare l'insegnante se non avessi fatto il lavoro che faccio. Credo aver capito che sia più utile cercare di capire che cosa uno sa piuttosto che cosa uno non sa, che fortificare gli studenti nelle loro certezze, nelle loro competenze sia un valore più importante che, come dire, rivelare loro le loro mancanze e le loro lacune. Quindi credo che disporsi non come un giudice, ma come un educatore, quindi proprio uno che ti conduce da qualche parte, sia più veramente più utile, proprio più utile. Più ci si sente gratificati, forti, più si accresce l'autostima e più si costruiscono persone interessanti e utili per il futuro. E lì, insomma, la parola maturità prende senso. Ah, sì. Maturità anche da parte dei professori. Certo. Grazie davvero, Fabio. C'è un augurio che vuoi mandare ai quasi 500.000 studenti? Beh, insomma, in questi casi non si può che dire in bocca al lupo e passa, ecco, poi è solo un sogno a un certo punto. Che ritorna a volte, però fate finta di essere già laureati, esatto. Grazie Fabio, ciao, buona serata. Grazie, buona serata, ciao. Fabio Fazio, e da Fabio Fazio passiamo a Salvatore dalla provincia di Bologna, ciao Salvatore. Ciao, buonasera. Buonasera, che ricordo hai della tua maturità o sei un maturando? Perché hai una voce da giovanissimo. No, purtroppo sono già passati 8 anni dalla mia. Ok. Però mantengo un ricordo veramente molto bello e senza dubbio tra i migliori fino adesso. E anche perché comunque è stato caratterizzato, a differenza di tanti, da una tranquillità importante, insomma, non ero per niente teso, preoccupato, ero abbastanza sereno. Ma perché eri consapevole di quanto avevi studiato, insomma? Sì, cioè non è che non voglio sembrare presuntuoso o che cosa, però l'avevo presa un po' come una sfida, diciamo, e quindi ero assolutamente sicuro che avrei fatto bene. È stato veramente una bella esperienza. Poi la sera prima in particolare è stato un po' un delirio, perché in mezzo a 1000 persone preoccupate che si sbattevano, che cercavano di capire, immaginare quello che potesse essere, quello che poteva esserci, io ero l'unico tranquillo, ho fatto anche un po' una figura non buona, diciamo. Ecco, succede anche quello. Grazie Salvatore per la tua testimonianza, ciao e buonanotte. Grazie prima degli esami. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Claudia ci scrive via sms: ciao Radio 24, passano i minuti e l'ansia aumenta sempre di più, ma ascoltarvi è un ottimo modo per distrarsi, è bello ascoltare tutti i ricordi degli adulti sulla loro maturità. Un bacione a tutti, siete mitici, noi ti ringraziamo Claudia e invitiamo anche i maturandi a chiamarci in diretta per farci sapere davvero cosa stanno facendo in queste ore. Ricordo gli anni passati, c'erano gruppi di studenti che si ritrovavano davanti alla loro classe, che poi dopo questo esame, la loro scuola, quel portone, l'avrebbero salutato per sempre. Se avete voglia di raccontarci tutto ciò, siamo qua. 800 24 00 24, adesso ci fermiamo, il GR, poi ancora qua in diretta. Notte, la notte prima degli esami. Che notte quella notte, se ci penso mi sento le ossa rotte. Notte. Notte prima degli esami, la maturità raccontata qui a Radio 24 fino a mezzanotte insieme con i vostri messaggi, i vostri ricordi, le testimonianze di tanti personaggi famosi e poi anche le giuste dritte di chi la scuola la studia, la racconta giorno per giorno. Mi ha raggiunto Maria Piraceggi che eccomi qua. Sta saltellando vado, tra vado lo studio, il GR è una serata impegnativa anche per te. E entriamo in Scuola 24, vero? Sì, il quotidiano digitale del Sole 24 Ore che ogni giorno davvero molto puntualmente ci spiega tutte le novità, ci racconta tutte le novità del mondo della scuola. Siamo in collegamento con il collega del Sole 24 Ore, Claudio Tucci. Buonasera Claudio. Sì, buonasera a voi, ciao Federico, ciao Maria Piera. Anche ciao per te stasera super lavoro, insomma, anche per riportare le parole del ministro Giannini che abbiamo sentito poco fa. Ma veniamo alla maturità, Claudio. Allora, sì, dicevamo che questa maturità presenta alcune novità che derivano sostanzialmente, le più importanti, dal fatto che sono arrivati in quinta i ragazzi dei nuovi indirizzi introdotti con la riforma Gelmini del 2010. Le vogliamo riassumere molto sinteticamente quali sono le principali novità che si trovano ad affrontare i ragazzi quest'anno? Sì, in effetti ecco, la novità di quest'anno è che va a regime la riforma del 2010 che ha un po' modificato tutti i licei, istituti professionali e tecnici. Cosa ha fatto? Ha introdotto delle nuove materie e queste materie sono caratterizzanti, i ragazzi lo sanno, e quindi queste materie ora se le troveranno a fare gli esami. Facciamo un esempio, no? Dai nuovi licei, un liceo nuovo che è nato, il liceo delle scienze umane, indirizzo economico-sociale, qui praticamente la seconda prova si farà sul diritto ed economia politica. Quindi queste materie, quindi novità nuove, che riguardano soprattutto poi la seconda prova, naturalmente, la seconda perché prova, la prima uguale per tutti. Esatto, prima sì, è la prova uguale per tutti. E la seconda prova che appunto vede l'inizio di queste materie caratterizzanti che vanno esame e poi si cambia anche un po' il colloquio. Cioè uno dei meriti della riforma Gelmini è stato di aver reso più pratica l'istruzione, cioè aver introdotto l'alternanza scuola-lavoro o averla resa un po' più strutturale nei percorsi superiori, soprattutto tecnici e professionali, e invece ultimamente è stata introdotta anche una modalità nuova di insegnamento di una materia che si chiama metodologia CRIL, vuol dire appunto che si insegna in materia linguistica una materia non linguistica. Esatto, queste due novità quest'anno le troveremo, i ragazzi le troveranno al colloquio, cioè sarà valorizzata sia l'eventuale esperienza fatta presso un'azienda, l'alternanza significa che i ragazzi potranno raccontare fanno, quindi la loro esperienza lavorativa. E potranno anche fare una parte del proprio esame in lingua straniera. Questo dove sarà possibile? Il Ministero però ha messo un paletto qui con una recentissima circolare di qualche giorno fa. Cioè possono fare appunto l'esame della materia non linguistica insegnata in lingua solamente se il professore che ha fatto appunto il corso durante l'ultimo anno è membro della commissione d'esame come membro interno. Sì, c'è da dire anche che non sono moltissime le scuole che hanno attivato questo percorso, come tu ben sai, sono davvero poche perché gli insegnanti che parlano bene le lingue sono pochissime. Claudio, un'altra novità riguarda la terza prova, ossia c'è stato un po' un giallo e visto che voi di Scuola 24 spulciate bene tutte le circolari, le leggete puntualmente, finalmente si è chiusa la querela oggi pomeriggio. Sì, diciamo che era una falsa notizia, no? Cioè, c'è stato appunto, si pensava che la terza prova, il cosiddetto quizzone, comprendesse 5 materie obbligatorie. In realtà poi nel pomeriggio il Ministero ha chiarito che la norma di riferimento appunto è un decreto ministeriale del 2000 e che veniva interpretato con fino a 5 materie. Lo scorso anno, gli anni precedenti, si sono fatte 4 materie e probabilmente saranno tali anche quest'anno probabilmente. Un'ultima cosa, mi ha incuriosito anche tutto ciò che riguarda l'incompatibilità dei commissari. Ci sono delle cose che sembrano davvero talmente ovvie o no? Sì, sono qualcosa di talmente ovvie, però è un altro appunto novità di questa ordinanza. In realtà se il commissario ha svolto lezioni private agli studenti che poi a fare gli esami o se è in gradi di parentela o affinità, in realtà lo deve comunicare. In realtà la novità non è tanto che lo deve comunicare, è il fatto che fino allo scorso anno e anche probabilmente quest'anno che c'è stata poi una deroga fatta all'ultimo minuto, si poteva, c'era una sorta di esonero, quindi cioè, poteva anche se non era non era possibile sostituirlo, poteva restare in commissione. E si trovava ad esaminare un ragazzo a cui aveva fatto le lezioni, insomma, sembrava normale. In realtà sì, questo qua è dovuto, il ministero ha dovuto specificare per la legge anticorruzione, che insomma ora hanno reso più stringenti questi controlli e di fatto nella maturità si applicheranno questo. Per quest'anno però il ministero l'altro ieri ha fatto una circolare dicendo laddove non è ancora possibile sostituire in corsa il commissario possono restare queste situazioni di incompatibilità. In realtà non sono tantissimi numeri molto elevati, però è bene che anche le norme anticorruzione si parte appunto anche dalle banche. Dalla scuola, che anche i ragazzi le imparino fra le i banchi. Grazie Claudio, ti lasciamo al tuo lavoro perché anche per te stasera è serataccia, viste le tante novità. Complicata. Giornata complicata per i ragazzi domani, per noi stasera. Grazie Claudio. Grazie a voi. Grazie, ciao, buon buonanotte. Programma, grazie a voi. Perché vivo veloce non mi frenerò, perché sentirti adesso ha rovinato la mia percezione del tempo, delle mie priorità, la tua stupida ossessione del mondo che non credo finirà. Fermati, non aspettare, aiutami a rinascere, blocca la mia confusione, credo non ci riuscirai, perché in questo momento sì, è un momento che cambia il mondo che si vive, il mondo che ti sta intorno. Lui il suo esame di maturità l'ha vinto, l'ha superato alla grande, l'ultimo Sanremo. Diamo il benvenuto a Giovanni Caccamo. Ciao Giovanni. Ciao, buonasera. In effetti anche quello originale anche quello originale tutto bene. Sì, sei uscito l'esame di maturità, sei, no, 100, sì, orgogliosamente. Rigorosamente 100, hai cantato anche lì, no? No, sì, diciamo, no, ai tempi non ho cantato. Che ricordo hai del tuo esame, Giovanni? No, è un esame, è stata, non lo so, una gestazione più che altro, un po' ricca di ansia, però quando sei poi sul momento il film parte e diciamo che in parte è come te lo eri un po' immaginato, in parte è più semplice, quindi insomma state tutti tranquilli. Quindi insomma la preparazione prima, ok, c'è l'ansia, no, c'è il voler essere all'altezza, dopo è andata. Sì. E, l'hai vissuto comunque anche tu come un punto d'arrivo o come un punto di partenza? Ma un po' coincide, insomma, da un lato è un punto di arrivo, ma dall'altro è sicuramente la fine di un percorso, ma all'inizio di un altro percorso diverso che comunque anche lì immagini da tempo. Io durante il liceo ho sempre poi immaginato questo post liceo, questa università, questo percorso, diciamo, con degli indirizzi più specifici rispetto a quello che poi amavo fare. Mm-hmm. E la tua parte artistica l'hai portata all'esame in un qualche modo? Che ne so, nella tesina? Sì. Sì, ricordo che c'era, mi sa, proprio un testo originale, non mi distingo per memoria, diciamo così, sono passati 5 anni, non tantissimi, però in realtà già arranco. Hai già messo una pietra sopra, non sei uno di quelli che poi si è sognato l'esame, come diceva prima Fabio Fazio, l'hai passato alla grande. Un consiglio da dare ai quasi tuoi coetanei che domani si troveranno su quel banco con quel foglio bianco davanti? Ma l'unico consiglio è godere di quest'ansia, perché comunque quella sicuramente è l'unica cosa che registri, più del titolo del tema di maturità. Quindi ecco, l'emozione che vivi è la cosa più diciamo memorabile. Quindi insomma lasciatevi andare, affidatevi a tutto ciò che avete fatto. e poi via, insomma. Però è bello, bello, mi piace godere, godersi fino in fondo quell'emozione, quella paura, quella trepidazione, insomma, quel mondo che non tornerà, diciamo, così, esatto. Come diceva la canzone, come dice la canzone, esatto. Grazie Giovanni, buona serata, ciao, buonanotte, ciao. Andiamo in provincia di Padova, andiamo da Maria Angela che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Ciao Maria Angela. Sì, buonasera a tutti, ciao. Ciao, tu hai... Sto vivendo adesso il primo anniversario della mia notte prima degli esami, nonostante la mia età non è che io sia giovanissimo, infatti ho compiuto da poco 50 anni, quindi l'anno scorso, diciamo, 30 anni di distanza da quello che avrebbe dovuto essere il mio esame di maturità normale, diciamo, sì. Ho sostenuto. Fantastico. Ho vissuto questi giorni stupendi, perché forse, non lo so, magari un anno dopo si vedono con un'ottica diversa, però ripensandoci effettivamente sono stati bellissimi, sono stati veramente giorni che sono contenta di aver vissuto, insomma. Adesso non conosco la tua storia, però immagino arrivandoci 30 anni dopo che l'avrei vissuta proprio come una conquista, una sfida da affrontare. L'ho vissuto come un qualcosa da fare, cioè qualcosa che era rimasto in sospeso, uh-huh. Perché per tutta una serie di motivi, il periodo, insomma, la mentalità, per tutta una serie di motivi, e i miei genitori hanno ritenuto che non fosse il caso che andasse avanti. Ma comunque quella è una cosa che appartiene al secolo scorso. Certo. E poi mi sono trovata a perdere il lavoro nel 2012, ad avere molto tempo a disposizione e a pensare che questo tempo a disposizione poteva essere usato anche per chiudere un discorso che per me era rimasto in sospeso, appunto, il mio percorso scolastico. E l'anno scorso, appunto, l'ho chiuso con la maturità. Adesso mi sono preso un anno di pausa, sai, una cosa. E forse vediamo se a settembre riuscirò a fare un altro passettino, perché poi alla mia età, sai, bisogna fare un passettino alla volta, pian pianino, non è che si possa, non c'è più quello slancio. Vabbè, però insomma, credo che insomma sia un bel messaggio per i maturandi e non solo. Esatto. Allora, io voglio dire soprattutto alle persone della mia età che le cose sì, si apprendono a scuola sicuramente, perché la scuola è e rimane la fonte principale, però dobbiamo anche capire noi vecchietti che molte cose le sappiamo già, dobbiamo solo trovare il modo per far capire, insomma, che le sappiamo, perché non è che abbiamo vissuto sì, certo, per comunicarle di, via. Non certo. È che abbiamo vissuto 30 anni di più di quelli che hanno 20 anni così sospesi in un vuoto così pneumatico. Sì, no, avete vissuto, le cose sono lì e la maturità è fa parte, insomma, la maturità la si raggiunge anche con i pezzi di vita che uno poi sa conservare, sa rielaborare e sa anche comunicare. Grazie Maria Angela, complimenti. Ciao. This shit, that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the firemen, I'm too hot. Continuiamo con la colonna sonora della maturità, con le leite scelte da voi. Adesso diamo voce a una maturanda. Chi sì, domani sarà su quel banco. L'abbiamo vista recentemente nella serie di successo di Sky 1992. Diamo il benvenuto a Irene Casagrande. Ciao Irene. Noi qui stiamo parlando di ricordi, di chi la maturità l'ha fatta 5, 10, 20, 30 anni fa, ed è tutto bello, tutto romantico, tutto poetico. Per te invece, che la maturità ce l'hai domani, com'è il clima in questo momento? Ma in realtà devo dire che nonostante quello che potrebbe essere, me lo sto vivendo abbastanza bene. Sto cercando di razionalizzare al massimo, sapendo che ok, adesso, anzi sono felice che cominci, perché so che così comincia e presa da tutte le varie prove, lo studio, finirà anche, che non me ne sono neanche accorta, quindi sto cercando di focalizzarmi su questo pensiero. Ma quindi da attrice sarai un po' privilegiata, perché sarai abituata a studiare le cose, insomma, quindi hai una memoria più allenata, è questo che ti dicono i tuoi compagni o ti lasciano in pace? No, ma con le mie compagne ho un ottimo rapporto. Poi diciamo che sì, sicuramente essere abituati a sì, recitare anche in teatro eccetera aiuta molto, anche però anche molto durante il percorso, quindi sì, è una cosa che mi ha aiutato e mi aiuterà sicuramente. Insomma, c'è un po' di allenamento. Adesso. Oh, però davvero sì. ti sento assolutamente serena e tranquilla, ma stai facendo un ripasso? No, perché questa sera cosa ripassi? No, nel senso che avevo avuto le prove generali di uno spettacolo che dell'Accademia Teatrale dove studio e lavoro, e che insomma andiamo in scena con Il Sogno di Shakespeare, quindi venerdì. Uh-huh. E quindi ho avuto le prove generali e adesso mi sa che mi distrarrò un attimo e poi... Quindi mi passi dal Sogno di Shakespeare all'incubo da esame, questo è il passaggio notturno. No, spero che Il Sogno di Shakespeare mi ispiri un sogno piacevole anche per me prima di domani. Te lo auguriamo, grazie davvero, ciao e buon in bocca al lupo per l'esame. Ciao Irene. Grazie, ciao. E anche Marta da Firenze ci chiama, anche Marta domani avrà la maturità, ciao Marta. Ciao, buonasera. Ecco, questo è un sorriso un po' più nervoso invece, si sente che c'è un po' di agitazione lì sotto. È un po' tanto. Sì, un po' tanto, perché? Ma insomma, non si sa nemmeno come ho fatto questa prova. Come non si sa? Avrei fatto. No, non sai il titolo, però questo è no. Perdonaci, non possiamo, cioè neanche noi lo sappiamo, ma non sarebbe neanche bello arrivare lì già sapendo il titolo. Ma tra i mille scogli che vedi davanti a te nei prossimi giorni, qual è quello che ti spaventa di più? È domani. Matematica, la seconda sì, prova. Sicuramente. Sicuramente andrà male, dici? No. Non lo so. Che scuola fai, Marta? Faccio liceo scientifico sportivo. Liceo scientifico sportivo? Sì. Ah. Siamo in due, c'è una mia amica qui che vi saluta. E noi ricambiamo. Cosa porta? Cioè, devi portare sport proprio come disciplina all'esame? C'è uno sport? No, in realtà sarebbe una scuola per gli sportivi. Sì. E io faccio sport, faccio tennis. Uh-huh. E questa scuola è apposta per gli sportivi. Ho capito. E quindi è un liceo scientifico normale senza il latino. Ok, cioè c'è il tennis al posto del latino, questo sì. Non è male, in tanti fare programma. No, c'è informatica, sì. Informatica in inglese. Ho capito. La tesina su cosa l'hai preparata? Sul design, ok, quindi sì. Insomma hai spiazzato proprio completamente. Sì, tutto il contrario. Marta, in bocca al lupo, divertiti, va bene, ok. Chissà invece se la matematica è stata uno scoglio per il prossimo ospite. Diamo il benvenuto al fisico Carlo Rovelli. Ciao Carlo. Salve Federico, buonasera. Auguri, bocca al lupo ragazzi. Andate a dormire tardi. Ah, giusto, andate a dormire invece di stare lì a... Bisogna dormire un sacco prima di età. Sì, Hai sentito la matematica, il grande spauracchio di tutti i maturandi, Carlo? Niente, non ce la si fa a superare questo impasse. Come la matematica? La matematica. Non lo so, io avevo greco e italiano all'esame di maturità. Ho fatto un disastro anche senza matematica. Andò male, no? Sì, andò malissimo. Ma perché l'avevi preso sotto gamba? No, al contrario, l'ho preso troppo sul serio, perché ho parlato male di Manzoni. Non ce l'hai fatta stare nei canoni di quello che il professore voleva. Beh, era il tema era sui Manzoni. Si chiedeva dell'importanza del Manzoni e io sono stato onesto, ho detto che Manzoni è un minore, che l'Italia c'ha Leopardi, c'ha Dante, c'ha questi giganti, e noi ci propinano Manzoni che è un minore della letteratura italiana. L'ho scritto sul tema, ho commentato, ho pensato, e la presidente della commissione d'esame era una manzoniana appassionata, è stato un disastro. Hai preso mai sette brevi lezioni di fisica, il grande successo pubblicato con Adelphi da Carlo Rovelli, che ha reso finalmente la fisica comprensibile, ha fatto innamorare della scienza. Questo è fare divulgazione. Secondo te il momento dell'esame dovrebbe essere un momento di divulgazione, di incontro, di innamoramento anche con le varie materie e non solo un test nozionistico? Ma al momento dell'esame, mi piace quello che diceva Giovanni prima, è un momento di grande emozione, no? Di grande passione, per cui è un momento di legame stretto con la materia, in cui ci si trova proprio a contatto, che sia un esame, che sia un problema di matematica, che sia una traduzione, è il momento in cui ci si confronta con queste cose che si sono studiate, ci si confronta davvero. Allora, diciamo, la paura di essere giudicati travolge tutto, no? Uno pensa solo a quello, Dio, farò bene, farò male, e questo è, non so come dire, il rito collettivo della nostra società, si fa così, i masai saltano sulle mucche, noi facciamo tradurre, facciamo fare i temi, e si fa così per diventare grandi. Però dietro questa cosa qui c'è il rapporto di ciascuno di noi con le cose che ha imparato, che poi è un rapporto bellissimo in realtà, sì. Perché io ricordo gli anni del liceo come un incubo. Per me l'esame di maturità fu l'uscita da un incubo. Stare fermo, seduto per delle ore in classe mi sembrava una gabbia. Una gabbia di sofferenza, in cui appunto ogni volta che cercavo di esprimere, di dire qualcosa di mio, per esempio su Manzoni, venivo mazzolato rapidamente. Però poi in realtà tutte queste cose imparate, tutta questa fatica di studiare è la ricchezza della vita, e il momento dell'esame in cui ci si mette a confronto con queste cose qui è un momento di confronto con le materie che si studiano. E poi dopo io penso tutti quanti ce lo ricordiamo bello per questo anche, perché appunto io Manzoni, i miei pensieri su Manzoni me li ricordo ancora, le traduzioni in latino di greco, il tema sulla storia, sull'attualità, su quello che è, sono poi il nostro diventare cittadini, diventare adulti, imparare, acquisire questa cosa meravigliosa che è l'insieme della cultura, che nei secoli poi si concentra in questi anni di scuola. Certo, sette brevi lezioni sul Manzoni non lo vedremo però presto a tua firma, vero? Sul Manzoni no, ma sono passati, io sono vecchio, ho fatto l'esame della metà degli anni 70, mm-hmm. Passati, sai, 40 anni, quanto è passato, mamma mia, okay. Sì, e sono convinto che avevo ragione io, non la mia professoressa di allora. E questo è un po' l'augurio a tutti i ragazzi, credeteci in quello che fate. Questo è bellissimo. Grazie davvero a Carlo Rovelli per essere stato qua con noi in questa notte prima degli esami. Ciao Carlo, complimenti. Grazie Federico, arrivederci. Ciao. Adesso ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua perché la diretta continua. Notte. La notte prima degli esami. Che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Notte. Ancora notte prima degli esami, 800240024 per raccontarci la vostra maturità, che avete fatto, che state preparando. Tutto ciò lo potete fare anche su Twitter, l'hashtag è notte prima degli esami, oppure sul nostro sito radio24.it, o ancora via sms al 349-238-6666. E intanto diamo il benvenuto a chi magari vi ha accompagnato in questi pomeriggi di studio. Diamo il benvenuto a Caterina Balivo. Ciao Caterina. Ciao, ciao Federico, ciao a tutti, buonasera. Se l'esame di maturità fosse così, è detto fatto, sarebbe... Ah, guarda, mi ricordo all'inizio di settembre tutti quanti noi dicevamo abbiamo esame di maturità, come faremo? Non vediamo l'ora di arrivare a luglio, cioè già a settembre avevamo l'angoscia dell'esame di maturità. È vero che ti tiene compagnia per tutto l'anno, perché un po' i professori ci mettono del loro, come ricatto per... Cosa uscirà? Io faccio parte, io sono dell'80, quindi faccio parte ancora del vecchio esame di maturità. Poi dopo un anno esatto le cose sarebbero cambiate. Mm-hmm. E che ricordo hai della notte prima? Drammatico. Drammatico. Drammatico perché... non esisteva, cioè non avevamo i telefonini, esistevano, ma non avevamo i telefonini, quindi con questo telefono di casa che squillava, e mia mamma diceva: Caterina, vai a dormire perché ti devi riposare, è inutile che sei a telefono con le tue amiche, dite chissà cosa uscirà, chissà come faremo, chissà se questa notte escono prima le tracce, così prepariamo prepariamo il tema, insomma c'è una grande agitazione. Poi prima dell'orale io mi sono svegliata prestissimo, alle 4:30 del mattino, per poter ripetere. Portavo latino e filosofia, e chi ha fatto il classico lo sa, sono due materie terribili, lunghissime, insomma dei programmi molto impegnativi. E quindi io mi sono svegliata prestissimo e poter ripetere il classico latino, mi ricordo, perché avevo paura di non ricordarmi qualche parola, di bloccarmi, di non ricordarmi la traduzione. Un incubo, guarda Federico, un incubo. E Caterina, ovviamente in queste ore si scatenano anche così le richieste sui dettagli. Tra le ragazze, per esempio, c'è la grande domanda relativa al look. Lo sapevo che chi di te può darci una dritta. È importante arrivare vestiti in un certo modo? Bisogna essere diversi rispetto al resto dell'anno? Secondo me bisogna essere comodi. Vestirsi comodi, sì. Il jeans io lo sconsiglio, perché il jeans, a seconda poi dei professori, può sembrare un segno di sciatteria, di non rispetto per quello che stai facendo. Quindi il jeans non lo consiglio, piuttosto un pantalone semplice a sigaretta, così, per carità, mi raccomando, il pantalone sopra al malleolo, non facciamo scherzi, non facciamo cose antiche, quindi anche un po' di glamour ci sta, anche se state facendo un esame di maturità. E se io tornassi indietro mi vestirei così: pantalone a sigaretta con una t-shirt lunga, insomma, dopo l'ombelico ovviamente, perché certo. Insomma, e purtroppo ti dico che ricordo ancora il vestito che scelsi, un vestito lungo a fiori di lino. Io ora mi chiedo: ma dove cacchio pensavo di andare? Quindi una cosa imbarazzante, però stavo comoda, perché non volevo stare scomoda, non volevo avere costruzioni, che so, bottoni, oppure che sudavo e si vedeva la scena pezzata, capisci? Mi stavo chiedendo chissà in quanti ricordano come erano vestiti il giorno della maturità. È un ricordo particolare. Lo puoi lanciare, però guarda, io lo ricordo, e devo dire che in questa è stata prova anche la mia insegnante di latino e greco, che ho incontrato dopo anni fa, quando avevo già cominciato questo lavoro. Ma tu sei sempre stata molto attenta al tuo modo di vestire, al tuo modo di essere, insomma. E dici: ma perché lei ci ricorda come lo vestito? Sì, un vestito lungo a fiori, quindi lei in realtà me l'ha fatto ricordare. Fantastico. Sì, infatti, poi fortuna l'esame è andato molto bene, e insomma, diciamo che il diploma l'ho portato con onore a casa, ecco. Brava, grazie davvero a Caterina Balivo per essere stata con noi. Grazie con la sua simpatia. In bocca al lupo a tutti, se ci state seguendo, andate a dormire. Ciao, buonanotte. Ciao, Federico, buonanotte. Ciao. Lei cerca di sedurti, ti piace, clicca forte, più forte, lascia il pure, inizia pure a postarti. Solo se poi le piaci, ti manda mille baci, cuori, origami, ora tu baciami, mami. È un nuovo video game, si chiama Sex Machine. Entra col tuo nickname e sei nell'area VIP. Pose da Superman, labbra da sexy kiss. Resta nel gruppo VIP, dentro la sex machine. Ed eccola una delle canzoni scelte dai maturandi per portare un po' di leggerezza, un po' di allegria in queste ore di studio. Lui è Jody Daniel Cecchetto, JDC, che è qua con noi. Ciao Jody. Ciao Federico, come stai? Io molto bene, tu? Io bene, perché perché non devo affrontare la maturità domani. Ti sto benissimo. L'hai affrontata però non da tanto, perché sei giovanissimo. No, nel 2013, sì, 2 anni fa l'ho affrontata. Che ricordo hai? Allora, io ricordo abbastanza chiaro, perché comunque, visto che è fresca, sono uscito col 78, questo me lo ricordo, ok? E poi con soddisfazione, anche... eri contento di questo 78? Sì, ti sentivi rappresentato? Sì, dai, diciamo che l'abbiamo portata a casa, l'abbiamo portata a casa bene, okay. Allora, l'ansia che avevo i giorni prima dell'esame era un'ansia adrenalinica, ero andato a fare un full immersion con degli amici in montagna, ero tutto preso bene. Poi però, quando ero sulla linea di partenza, la famosa notte prima degli esami, mi è venuta una strizza pazzesca. Ho detto: ma aspetta, ma è domani, ok, facciamo un attimo il punto, domani sto per affrontare questa cosa che è importante. però cavolo, la devo affrontare bene. Allora sono iniziate tutte le paranoie, la consapevolezza che magari quello che avevo studiato sarebbe stato completamente diverso da poi quello che ci sarebbe stato. Mm-hmm. Quindi questo qua è il ricordo che ho, per esempio, per l'ansia. Poi effettivamente, per quanto riguarda gli esami, la prima prova è andata benissimo, perché ho preso 15 quindicesimi, permettimi di dirmelo, perché questo, sono fierissimo di questo 15 quindicesimi. Avevo fatto un esame su l'ambito era tecnico-scientifico, okay. Parlavo dell'elemento umano, la ricerca scommette sul cervello, io avevo chiamato il tema l'elemento umano, a me piace molto scrivere, no? Mm-hmm. E avevo anche fatto appunto una citazione anche a Jovanotti, infatti. E invece per quanto riguarda matematica, perché ho fatto liceo scientifico, mi ricordo solo gli sguardi alla gatto con gli stivali di Shrek che mandavo alla professoressa in cerca di aiuto, ero là tipo ok, guarda, mi guarda. Infatti poi mi sono portato a casa qualche, non dico suggerimento, ma qualche dritta. E poi la terza prova è andata abbastanza liscia, e quindi tranquillo. Ma Jody, ma incuriosito, ma il ritiro pre-esame è una scusa per passare qualche giorno con gli amici, o è stato utile? Allora, io sono andato in una località di montagna dove non c'era anima viva. Ok, quindi vi siete isolati. Esatto, sì, siamo isolati. Quindi non è che abbiamo detto, guarda, siamo andati a Sestriere, diciamo, andiamo, che poi Sestriere anche d'estate non penso faccia delle mega feste, però siamo andati proprio in un posto isolato dove ci siamo isolati completamente, quindi non era proprio una scusa. Però diciamo che stare con gli amici è stato sempre comunque un piacere. Mm-hmm. E dopo l'esame hai fatto il classico viaggio post maturità? Guarda, in realtà no, però ho fatto dei gran bei giorni a Milano con gli amici, nel senso mi sono fatto il viaggio a Milano, cioè nel senso sono stato a fare un bel po' di serate di sfogo a Milano. Okay. Quindi, e poi per quanto riguarda lì, io ci terrei a dare anche dei consigli, certo, ai maturandi. Allora, di non farsi sopraffare dall'ansia, perché ho imparato solo dopo che nessuno in realtà ti vuole mettere i bastoni fra le ruote, nel senso soprattutto i professori, che magari sono quelle persone che dici, ah, adesso quello mi vuole bocciare, in realtà loro non vedono l'ora che andate da un'altra parte, cioè, hanno detto così è un po' brutto, però è la verità. Poi, come diceva il maestro Rovelli prima, di dormire molto, perché quello aiuta. E poi quando ci si confronta con gli amici, di non mettersi le ansie a vicenda, dire aspetta, quello non lo so, cioè di fare dai che ce la stiamo facendo, dai. Infatti a me è servito molto. E poi quello bonus di ascoltare Sex Machine. No, infatti, perché credo sia una bella soddisfazione quella di sapere, esatto, che ci sono ragazze della tua età che in questo momento stanno studiando ascoltando la tua canzone, che insomma sì, soprattutto ragazze, mi mette molta soddisfazione. Speriamo che aiuti, dai. Grazie davvero, ciao Jody, grazie davvero, grazie per essere stato con noi. Bocca al lupo a tutti, bocca al lupo a tutti, bocca al lupo. Ciao. Ed è entrata con me, è tornata Maria Piera Ceci, perché abbiamo parlato dei professori, abbiamo parlato degli studenti, ma c'è un altro elemento, un altro componente. In questo periodo si sta parlando moltissimo, mm-hmm, di loro, sono i dirigenti scolastici, e noi siamo in collegamento con uno di questi, con Giuseppe Polistena, preside del Liceo Linguistico Manzoni di Milano. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, noi parliamo sempre, no? È tutta la serata che parliamo delle ansie degli studenti, eccetera. Però, insomma, immagino che anche voi presidi, che peraltro presiedete ad una macchina organizzativa piuttosto anche complessa, anche per voi questa è una notte prima degli esami. Sì, sicuramente. Partecipiamo con i ragazzi delle bellissime emozioni che provano anche loro. E soprattutto tremate, perché se poi qualcosa va storto o no? Succede sempre qualcosa, da quanto mi ricordo io, insomma, è sempre successo però qualcosa di piccolo. Meno male. E comunque è una cosa bellissima vedere i ragazzi emozionati, a loro direi di accettare quell'emozione che provano e domani di raccontare quello che di partire con l'idea di raccontare qualcosa. Esatto, ma preside, ci sono delle novità quest'anno che riguardano proprio il liceo linguistico. In particolare la novità di quest'anno è per la seconda prova, che è in lingua scelta dal MIUR, cioè la prima lingua, e non più dallo studente. Ci spiega bene com'è questa novità e ci dice se secondo lei è meglio così o era meglio prima? Ma guardi, diciamo che potrebbe, è difficile capire certe volte il ministero, no? Però si può immaginare che o motivi di semplificazione o motivi di una specie di maggiore rigore siano stati all'origine di questa scelta. Non la ritengo particolarmente importante per diciamo ai fini dell'esame e dell'esame del liceo linguistico. Immagino che siano quelle le motivazioni che abbiano indotto il Ministero ad agire così. Però non cambia un granché, insomma. Mi piacerebbe, mi sarebbe piaciuto discutere con Rovelli tentando di convincerlo che Manzoni non è un minore. Però siccome presiedo il liceo Manzoni potrei essere accusato, insomma, di fare un po' di partigianeria, ma non sì, è così. Assolutamente. Però un bel dibattito, insomma, si può pensare, si può organizzare. Un'altra serata speciale. Quest'anno si è un po' scatenata, già da qualche anno in realtà, da quando esistono i social, poi si è scatenata la caccia al commissario sui social network, perché quando escono le commissioni, tutti i ragazzi ovviamente si mettono a cercare chi sono questi insegnanti, parlano con i ragazzi che li hanno conosciuti, perché come sappiamo i prof non sono tutti uguali, ci sono quelli bravi, quelli meno, quelli spietati, quelli comprensivi. A questo proposito ascoltiamo insieme questo brano. Ce l'abbiamo il brano estratto dal film, aspetta, perché dall'altra parte dei vetri hanno 88 telefonate in contemporanea. C'è, vai Peter, grazie. Hai saputo del professor Santoro? No. Ha avuto un incidente, non sarà lui il membro interno alla maturità. E indovina chi lo rimpiazza. Sta scherzando? Io non scherzo mai, Molinari. Bei capelli, vieni pettinato così all'esame. Quando l'ultimo giorno di scuola, dell'ultimo anno di liceo, suona la campanella dell'ultima ora, sei convinto che quello sia l'ultimo secondo della tua adolescenza. Grandissima cazzata! Ecco, non so, Polistena, lei l'ha riconosciuti? L'avrà visto questo film, è di qualche anno fa. Faletti, un bravissimo Faletti, con Vaporidis. Faletti non l'ho visto, però quindi lo deve fare, però, perché parla di un professore molto cattivo, molto spietato, e ovviamente Vaporidis si trova poi lui di fronte, come è ovvio che sia. Perché parlo di questo? Perché lei non solo insomma presiede il liceo linguistico Manzoni da un sacco di anni, ma in questa scuola ha anche cercato di fare, forse per la prima volta in Italia, adesso potrei esagerare, ma una delle prime volte, ha provato a esaminare e a giudicare gli insegnanti, un argomento abbastanza caldo in questo periodo, come sappiamo, con il DDL scuola. E questo professor Martinelli era davvero un commissario spietato. Allora, un processo molto complicato questo della valutazione degli insegnanti. Come mai sta trovando tante resistenze? Allora, noi l'abbiamo fatto 5 anni fa e per i primi 3 anni l'abbiamo fatto bene, perché le resistenze non erano notevoli. Da quell'esperienza abbiamo imparato, io anche personalmente ho imparato tantissimo, perché non si immagina in genere quanto sia utile sapere quello che i ragazzi hanno da dire, anche i genitori, perché poi anche i genitori erano coinvolti. Il problema della nostra scuola è che l'insegnante medio italiano non vuole farsi giudicare, e quindi perde anche alcuni bravi, sono ideologicamente convinti che non sia giusto che lo studente dia un voto, per cui esiste un problema di resistenza all'innovazione, perché non si hanno nemmeno i dati. Noi alla Manzoni possiamo offrire dei dati interessantissimi, per esempio il professore molto rigoroso viene sempre valutato bene. Certo, perché i ragazzi non sono stupidi, non è che l'insegnante, in questo caso forse potremmo dire il commissario esigente, è poi quello che viene temuto di più, forse viene temuto di più quello che non è bravo. Esatto, nei 3 anni, adesso sono 5 anni che lo facciamo, però ci sono state delle resistenze, abbiamo dovuto modificare alcune cose, ma io ho visto ragazzi che avevano la maturità di mettere 8 sulla spiegazione e 5 sulla relazione umana, che quindi è così importante invece, no? Allora il docente che non vuole ascoltare quello che lo studente dice su quell'ambito lì si priva di una informazione utile per la sua professionalità. Certo. Ecco. Polistena, chiudiamo con un bel consiglio a questi ragazzi che domani devono affrontare la prima prova. Appunto, come ho detto prima, far proprie le emozioni o il batticuore che sentono, prenderlo in mano come se fosse un valore, non un problema, e andare a raccontare qualche cosa della loro vita, perché nel tema di italiano questo succede. E poi il prossimo anno ce lo racconteranno qui in radio a notte prima degli esami, magari, Federico. Grazie mille, grazie a Giuseppe. Voi, arrivederci. Buonasera. Viaggi immaginari, senza marce, senza fari, cui Black Sabbath e la luna, sur al tesh della casena, sigarette, muculot, e adesivi in sul cuscot, Sant'Antonio e i Rolling Stones, padre Pio Punti Ramones. Guarda come va l'idea, gli anfibi e la cresta, la barbella. Lo avrete sicuramente riconosciuto, Davide Van de Sfros, che è qua con noi ospite in questa notte prima degli esami. Ciao Davide. Ciao a tutti. Noi ti abbiamo invitato, se avevi voglia di raccontarci la tua maturità, e tu hai detto: io partecipo anche, però... Qui è una bomba, qui ragazzi, qui è come buttare una bomba a mano, se ci dite a me una cosa la notte prima degli esami, perché qui abbiamo a che fare col Vietnam, signori e signori, qui è una cosa come... non è, perché questi ragazzi qui stanotte sono lì con la colite spastica, con tutte queste cose, avrò studiato abbastanza, sarò pronto, non sarò pronto. Io non lo smetterò mai di pensare, io non smetterò mai di ricordare, io non ce l'ho con la scuola in quanto tale, ma ci sono delle piccole sfaccettature di questo sistema che ti mettono a dura prova, e io credo che lo stress psicologico di uno che vive la notte prima degli esami sia abbastanza simile a quelle campagne di Giulio Cesare, di Leonida, questa è Sparta, l'accampamento, sì, loro dicevano cose anche come dire: stanotte mangiate, bevete, quando era possibile dicevano anche: andate con le vostre donne perché domani dimoreremo nell'Ade. Ecco, c'è quello stress psicologico lì, senza esagerare, però questi non fanno tutte queste robe, sono lì che studiano, che ripassano, che guardano i foglietti, che dicono: avremo pronto tutto. Ed è una cosa dura. È dura, ma secondo te è utile o inutile? Cioè, gli esami servono o sono una formalità? Gli esami a un certo punto arrivano perché la scuola è quella cosa che è stata strutturata così, non è più come ai tempi di Socrate, dove andavano in giro, il maestro, il mentore parlava, gli altri capivano, imparavano, c'è una struttura, diventa un po' una catena di montaggio, e allora alla fine dei conti devi anche capire chi ha capito, chi non ha capito, chi sa, chi non sa. È triste, probabilmente è abbastanza utile per loro, è disastroso per chi deve vivere questa cosa qua, però la possiamo anche capire, insomma. Io voglio dire questo, adesso faccio un po' di outing e così la mettiamo via. Vai. Tanto è abbastanza tardi e lo posso dire perché nessuno a quest'ora può più fare quello che ho fatto io nella notte prima degli esami, quando li dovevo fare. Allora, c'è un momento in cui la tegola si rompe e il tetto resta comunque in piedi, e tu dici: adesso è la notte prima degli esami, io potrei mettermi qui, ripassare tutto, ma tanto quello che so so, e quello che non so non lo saprò mai. Certo. Perché non è proprio in questo momento che io potrei cambiare tutto quanto. Allora, quella notte prima degli esami, io presi la bicicletta e puntai verso Tremezzo, facendo la mia litoranea qui sul lago di Como, andrai nel solito bar e dissi: bevo una cosina perché domani ho gli esami e poi vado a casa. Sì. E la signora del bar, che era molto generosa, mi disse: un negroni, e mi diede proprio un bicchierone di negroni grande come un frullato. e io dopo quello potevo già aver fatto tutti gli esami del mondo, se non che entrarono due o tre taglialegna e mi dissero: bevi ancora qualcosa? No, ho gli esami. Allora bestemmiarono e dissero: no, tu bevi ancora qualcosa proprio perché hai gli esami. E io ho dovuto bere una, poi anche due, poi tre di queste bevande, capito? Ho capito. Come finisce questa storia? Finisce che alle 11 io ero su una palma nana gigantissima arrampicato. Quando discesi mi chiesero se ero in grado di tornare a casa con la bicicletta, io dissi sì, però prima di casa io trovai un mio amico che arrivava in moto, lo vidi all'ultimo momento e cadde in terra e mi squarciai anche un po' un braccio, e poi lui tornò indietro e mi disse: tutto bene? Sì sì, a parte il fatto che domani ho gli esami. Però arrivai a casa, non dissi niente ai genitori, entrai in casa come se niente fosse, non capivo più niente, non sapevo più neanche che era la sera prima degli esami. Andai a dormire, mi svegliai, andai in bagno e ovviamente resi l'anima a Dio lì nel bagno, perché era ovvio. Mio padre mi disse con un appiglio di saggezza: vedi, anche se ti atteggi a essere un duro, hai paura degli esami. E io ho detto: come no? Mi feci credere che certo, era così. Esatto. Tempo scaduto e arriva il GR. Grazie Davide per aver così raccontato questa tua notte prima degli esami. Noi ci fermiamo il GR, poi torniamo qua ancora un'ora in diretta con i vostri racconti. Notte, la notte prima degli esami. Cammino da solo e non mi volto mai, non posso perdere. Disposto a sballare solo per crescere. Non so com'ere, yeah, yeah. Ci vuole calma e sangue freddo. Calma, yeah. Sì, ci vuole calma e sangue freddo in questa notte prima degli esami. Ancora in diretta, ancora a Radio 24. Ancora un'ora con... Max, sono Federico Taddia e le vostre voci, i vostri racconti. 349-238-6666 per i vostri messaggi. L'hashtag è notte prima degli esami, se volete partecipare a questa serata interattiva anche via Twitter, oppure 800-24-0024, numero verde che ha composto Letizia da Milano. Ciao Letizia. Pronto, buonasera. Eccola lì, ciao Letizia, il tuo ricordo, il tuo saluto, il tuo augurio, qual è? Allora, il mio augurio è suggerire ed aiutare. Fantastico, cioè allora, che adesso un esame di gruppo, tu dici. Io ho 63 anni, quindi si parla che Annibale stava valicando gli altri. E tu l'hai raccontato in diretta quando hai dato l'esame di maturità, insomma. Assolutamente sì. Era il tema, allora, di attualità. Io ero una secchia rapita, bravissima, sai, di quelle che sono arrivate a fare l'esame di la versione dal greco, sì, in italiano. Io l'ho tradotta in latino, quindi 10 era belge. Avevo dei compagni, perché eravamo tutti privatisti, sì, di cui uno era una bestia assoluta, nel senso che per esempio diedi una traduzione, disse: mi raccomando, cambia le parole. Lui da fiere montane tradusse feste contadine. Ecco, allora all'esame di maturità era vicino a me, io dopo aver tradotto tutto gli ho passato tutta la versione. Okay. Lui è passato, i genitori mi hanno chiamato ringraziandomi perché avevo dato questa traduzione, e poi all'università, io secchia rapita bravissima, e lui all'università, alla statale, era avanti di 10 esami più di me. Ok, sperando, questo... sperando non insomma, che non abbia continuato a copiare, insomma, aveva bisogno di... Ma non ha importanza, esatto, aveva bisogno di quell'incentivo per la maturità. Bisogna essere tutti uniti, tutti vicini, perché poi i migliori saltano fuori comunque, non ha importanza una frase, una traduzione più o meno giusta, capito? Uniti tutti okay, in allegria. Ciao Letizia, grazie ciao, per il tuo augurio. Ciao, andiamo invece a Bologna, dove c'è Martina, che domani invece ha la maturità. Ciao Martina. Buonasera. Ti è piaciuto questo augurio? Bisogna copiare? Ma sì, è quello che più o meno ci stanno consigliando i nostri professori da all'inizio dell'anno. Stai scherzando? Ma sì, perché sanno che molti di noi non hanno speranza in alcune prove, quindi per il nostro bene si augurano di copiare. Hanno alzato bandiera bianca anche loro. No, stiamo scherzando. Tu com'è questa notte, queste ultime ore, come le stai vivendo? Ma Dio, un po' d'ansia c'è in effetti, perché non tanto per la prova, perché è valutata, perché il voto finale, eccetera, eccetera, però perché alla fine è la tappa finale di un percorso, e quindi è una cosa secondo me molto importante, molto emozionante, perché ci si guarda indietro e si vede ciò che si è fatto fino a questo punto e quanto si è cambiati e cosa si è diventati, e quindi è un po' come qualcosa che segna la fine di tutto questo, e quindi è una cosa molto importante secondo me, al di là appunto del voto e dell'esito. È un po' come la fine del viaggio. E la fine del viaggio è l'inizio della seconda tappa, no? Di un'altra tappa, quindi insomma c'è anche... Certo, sì, poi ognuno prende la sua strada, quindi... Però questi anni li abbiamo condivisi, e siamo cresciuti tutti quanti in modo diverso, ed è bellissimo. Grazie davvero Martina per le tue parole, che insomma hanno dentro tanto di questo momento, di questa notte, di questi esami, di questa prova, di questa età, no? Che è il bello del poter guardare il pezzettino di strada che si è fatto e sapere che poi davanti invece c'è una prateria tutta da esplorare. In bocca al lupo, ciao Martina. Ciao ciao. Adesso ci colleghiamo invece con la redazione di studenti.it, i nostri compagni di viaggio in questa notte prima degli esami, e Valeria Roscioni che sta tastando il polso della rete. Valeria, cosa sta succedendo? Eccoci, ma un po' di tutto, diciamo. C'è chi comincia ad andare a letto, chi pubblica delle foto tremende di derrate alimentari, credo che vadano bene per mesi, e invece sono per lo spuntino di domani. E chi già pensa alla seconda prova, sono già in ansia da seconda prova, perché alla fine il tema in qualche modo qualcosa si dice, qualcosa si scrive, la seconda prova fa paura, e chiaramente fa paura, come dicevano anche prima i nostri ospiti, matematica. Non è che proprio a caso noi di studenti.it abbiamo lanciato in questi giorni un servizio proprio di matematica per aiutare soprattutto gli studenti maturandi a ripassare con gli esercizi interattivi, i moduli, insomma, per arrivare a questa prima prova un po' meno, a questa seconda prova un po' meno terrorizzati. Ma cos'è, una sorta di suggeritore individuale, un'app, un sito? Sì, è un'app vera e propria che funziona con gli esercizi, abbiamo gli esercizi pratici, gli esercizi con gli svolgimenti che mano a mano spiegano tutti i passaggi, no? Perché poi il problema di questa prova è che non basta scrivere il risultato copiato dal compagno accanto, devi anche dire come l'hai trovato questo risultato, devi capirlo. Soprattutto quest'anno, no? Che nelle simulazioni il mio era specificato che era importante che i ragazzi avessero la capacità di problem solving, questa parola che ha fatto paurissima ad aprile, quando il ministero ha dato le simulazioni agli studenti. E quindi stasera c'è anche addirittura chi ripassa matematica, e poi sono delle foto bellissime, perché abbiamo i maturandi fuori, in giro, tutti quanti insieme, con i cartelloni con scritto stasera 60 fa un po' paura, insomma, quasi una festa. Una festa per sdrammatizzare questo, sì. questo momento. Grazie Valeria, ci sentiamo dopo per salutarci prima della fine di questa bella maratona dedicata alla notte prima dell'esame. Ricordi di quel giorno coi parenti invisibili, o non come adesso che consegni pizza a domicilio nel quartiere. Che vita grama. Ritorni a casa infreddolita, il frigorifero è il deserto del Sahara. Ti chiedi perché non sono nata miliardaria. Lo vedi, del tuo monolocale non sei proprietaria. Accenderesti un mutuo se firmasse un genitore. Appendi il tuo diploma in scienze della disoccupazione. E hanno fatto un bel contratto con la anche se cosa vuol dire non lo so. Laureata precaria, chi canta è Simone Cristicchi, che è qua con noi. Ciao Simone, benvenuto alla notte prima degli esami. Buonanotte a tutti, buonasera. Non era un brano così ben augurante per chi si sta per preparare all'esame di maturità, però insomma. Però è l'attualità che ritorna e che uno comunque insomma deve conoscere, no? Era un brano abbastanza preveggente, profetico. Allora, quando ho invitato Simone, possiamo dire anche backstage, le ho mandato un sms, ho detto: Simone, hai voglia di starci, hai voglia di raccontarci la tua maturità? E ho detto: certo, ho fatto scena muta. Questa è stata, non ho voluto sapere di più per non rovinarmi la sorpresa qui in diretta. Dovete sapere che io mi sono diplomato con il minimo dei voti, quindi un 37, non mi ricordo come si dice, comunque il minimo che si poteva prendere per non essere bocciato, perché mi ero innamorato di una ragazza che abitava a Firenze e io abitavo a Roma, e di conseguenza per vederla, per poterla incontrare, io non facevo altro che prendere il treno Roma-Firenze, Firenze-Roma, e tutto questo portava molto tempo via dallo studio. Quindi mi presentai all'esame di maturità con una tesina, diciamo, abbastanza prevedibile, e che venne smascherata immediatamente dopo le prime 5 o 6 domande, perché quando si usciva fuori dal seminato, da quello che io avevo preparato in maniera abile, ovviamente veniva fuori quella lacuna enorme, una lacuna enorme, un lago di ignoranza che veniva fuori prepotentemente e che quindi mi mise in difficoltà enorme davanti alla commissione. La cosa che mi confortava era vedere fuori dall'aula due miei amici in ciabatte, in sandali e in pantaloncini corti che mi aspettavano alla fine dell'esame per poter andare immediatamente al mare. Ok, non a Firenze dalla ragazza, ma al mare. Ma tutto ciò perché l'avevi preso con leggerezza l'esame, cioè non era comunque una cosa a cui tenevi particolarmente? No, non ci tenevo particolarmente, però diciamo così, avevo dato il massimo che potevo dare in quell'occasione, diciamo, avevo preparato una cosa, come dire, il minimo che si poteva richiedere a un alunno, io l'avevo fatto e per fortuna la clemenza dei commissari, come si dice? Sì, della commissione, insomma. Della commissione, la clemenza mi permise poi di superare l'esame col minimo dei voti, però oggi sono qui, insomma, sono in diretta su Radio 24 per dire a chi sta preparando l'esame che anche io in qualche modo ce l'ho potuta fare, anche con un minimo di fantasia sono riuscito a superare l'esame e oggi vivo della mia passione, nonostante tutto, nonostante abbia preso il minimo. Insomma, questo credo che sia comunque un messaggio importante, no? Perché comunque significa mettersi in gioco e giocarsi le proprie passioni, le proprie capacità. Simone, prima di salutarci, cosa succede il 10 agosto in cima al Monte Labbro? Siamo in provincia di Grosseto. In cima al Monte Labbro, vicino al Monte Amiata, sarò con il mio prossimo lavoro, il mio prossimo spettacolo teatrale che si chiama Il Secondo Figlio di Dio, ispirato alla vicenda realmente accaduta di un profeta che si chiamava Davide Lazzaretti. Sarò in cima a questo monte perché lì questo profeta, poi dichiarato eretico dalla Santa Inquisizione alla fine dell'Ottocento, proprio lì sopra, in cima al monte, lui stabilì la sua comunità, diciamo così, una comunità particolare che univa i principi del cristianesimo delle origini con una sorta di proto-socialismo, e per questo fu ostacolato in tutti i modi. Diciamo, la storia di un eretico, la storia di un sognatore, di uno che non si fermò davanti a persone che volevano in qualche modo ostacolarlo e andò fino in fondo. Il finale è abbastanza tragico, però è un invito, così, come dire, a inseguire il proprio sogno, costi quel che costi. Ecco. Ok, quindi insomma ci sta col tema della serata, assolutamente. Il 10 agosto in cima al Monte Labbro, Grosseto, appunto vicino al Monte Amiata, Il Secondo Figlio di Dio. Grazie Simone per essere stato qua con noi in questa notte. Grazie prima degli esami. Ciao, in ciao, ciao. Bocca al lupo a tutti, ciao. E con queste particolari sonorità accogliamo il prossimo ospite. Questa è musica che proviene dalla cultura romani. Il tema dei Rom è stato un tema, ahimè, molto trattato in queste settimane con tanta confusione, tanto razzismo anche, tanta ignoranza. E anche noi volevamo però parlarne però con una chiave diversa. E quindi abbiamo cercato se tra i Rom e le Rom ci fosse qualche maturando, e abbiamo avuto la fortuna di incontrare Giulia Spinelli. Giulia è la figlia di Alexian, che è il nome d'arte di Santino Spinelli, che è il massimo esponente in Italia della cultura romania, un artista, una band di cui stiamo appunto ascoltando la musica. In questa band anche suona Giulia, che però in queste ore sta studiando, perché anche lei domani avrà la maturità. Ciao Giulia, benvenuta in questa notte prima degli esami. Grazie a voi, molto gentili. C'è più paura prima di un concerto o c'è più paura prima di un esame? Prima di un esame. Il concerto è come andare a casa. È vero, brava, brava. E tu abiti a Lanciano, che è in provincia di Chieti, se non erro, ok, qui appunto non mi sono preparato in geografia in questa nottata. Giulia, tu sei Rom, cosa si prova nel leggere, nel sentire appunto in queste settimane, dalle radio, dalla televisione, tutto questo parlare di Rom, di campi Rom, cosa nasce in te? Rabbia, rassegnazione, indifferenza, distacco? Allora, principalmente rabbia, perché vedere come, diciamo, utilizzato il mio popolo così strumentalizzato, perché io la chiamo strumentalizzazione, perché solo adesso se ne parla, se ne poteva parlare anche anni prima di queste cose, dà fastidio, perché poi vai in giro per la città sapendo chi sei, ti indicano, ti stigmatizzano. Non è bello, sinceramente. Poi specialmente io che mi sto preparando la maturità, i professori, conoscendo anche la mia etnia, sono un po'... ti vedono sempre un po' sottecchi. Ah, sì? Non è facile. No, non è facile. Io ho alcuni professori sinceramente che sono un po' razzisti. Io negli anni ho dovuto affrontare pure questa cosa, è stata difficile, però come ha insegnato papà, bisogna sempre affrontare le cose nella vita testa alta, tranquillamente. Perché comunque, cioè, tu dici mi etichettano, quindi per il fatto che io sia di origine Rom, che ne so, non posso essere brava a scuola, cioè c'è sì, questo pregiudizio. Questo è un concetto, sì, molti, io sono tra i primi della mia classe ad esempio, però molti non ci credevano, quando ad esempio lo vai a dire in giro nessuno ci crede, no, ma che stai dicendo, ci fanno. Io invece è sempre piaciuto studiare, è sempre piaciuto essere tra i primi, essere preparata. Insomma, quindi è la risposta migliore a questi pregiudizi, direi. Ma perché è uno stereotipo pensare che non ci mandano a scuola, non ci mandano a fare questo, non ci mandano a fare quest'altro, specialmente poi per le donne. Ecco, esatto. Quindi insomma, doppio stereotipo. Hai preparato una tesina particolare per questo esame? Sì, io ho scelto le illusioni della vita, perché ho letto Albert Einstein, ho sentito questa frase che mi è piaciuta molto, in cui stava a significare che la realtà è un'illusione, però è un'illusione perenne, è ben portata. Pensando pure a quello che ci portano i mass media, vedi il mondo, il telegiornale, le cose come sono, le persone, mi è piaciuto molto. E poi ha rappresentato anche molto il mio ultimo anno di scuola, sinceramente, perché ho capito com'è la vita, cioè perlomeno parzialmente ho iniziato a capire com'è. E mi sono fatto un po' l'illusione io della vita. Ascolta, ma secondo te l'esame di maturità è veramente un test che misura la maturità di una persona, o è solo una prova scolastica? No, ma veramente misurarla, perché dipende da come ti prepari, perché devi studiare tanti programmi, hai tante cose da fare, organizzarti. Io sento molti miei compagni invece che stanno soltanto puntando a divertirsi, hanno iniziato a fare l'estate, non si stanno concentrando. Quindi per me è veramente una prova di maturità, per altri è niente. In lingua romani c'è un modo per dire in bocca al lupo? C'è un modo per fare un augurio particolare? Sì, mio padre dice sempre "Bude bac sta fastipe", vuol dire che voi potete essere sani e fortunati. È un saluto, un augurio che si fa a tutti quanti, amici e nemici. E lo facciamo a te per questo esame. Grazie davvero Giulia, in bocca al lupo. Grazie mille a voi. Ciao. E buonanotte. Buonanotte. Dormi. Continuiamo con le vostre telefonate all'800240024 da Ravenna. Ci ha chiamato Enrico. Ciao Enrico. Ciao, buonasera a tutti quanti. Sentilo. Che ricordo hai del tuo esame? Allora, il ricordo è che ci vuole molta fortuna, bisogna aiutarsi assolutamente, ma ci vuole anche molta fortuna, perché a me è successa una cosa molto divertente. Allora, quando abbiamo fatto io ho fatto l'istituto tecnico, quindi sì, noi avevamo come prova specifica la progettazione di una macchina per produrre un particolare pezzo. Loro ti dicevano: devi produrre questo pezzo qui e tu dovevi fare la macchina partendo dai calcoli e arrivare a fare il disegno. Perfetto. Io avevo un mio compagno di classe che non era bravo in progettazione. E allora cosa abbiamo fatto? Ci siamo messi d'accordo per riuscire a cosa? Per riuscire a farlo copiare. Una piccola cooperativa, insomma, per aiutare. Una piccola cooperativa, come facevamo già durante l'anno. Benissimo. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto, per riuscire a passarci i fogli con i progetti, eravamo uno di fianco all'altro, abbiamo messo i rifiuti di quello che mangiavamo, perché l'esame era abbastanza lungo, li abbiamo messi tutti e due assieme nello stesso punto dei banchi. Sì. Quindi io metto lì i miei rifiuti, lui mette lì i suoi rifiuti, io metto lì i suoi rifiuti, io metto lì i progetti, lui prende i progetti. Bisogna essere anche furti. Cosa è successo? Questo va bene, stai dicendo tutto tu, però va bene, se cerchiamo una giustificazione sì, l'hai trovata. Cosa è successo? Io avevo anche portato la macchina fotografica, perché abbiamo detto: dopo fotografiamo i progetti, li facciamo vedere ai professori, se ci sono degli errori almeno sappiamo come controbattere. Perfetto. Chiesto il permesso al professore, alla commissione di fotografare, fatto le fotografie, portate a sviluppare. Arriviamo, il professore vede il mio progetto, andava bene, il progetto del mio compagno che l'aveva copiato male, aveva fatto un errore madornale. Sì. Allora, lui disperato fino all'orale, io contento, tranquillissimo, lui è per prima, come ordine alfabetico, è prima di me nell'orale, parlo, gli illustro il progetto, dicono il suo e va benissimo. Allora, va benissimo il progetto, allora io ero contento, ho detto: cioè, cavolo, se è andato benissimo, che c'è un errore madornale, mi andrà benissimo. E invece? Arriva da me, il suo è sbagliato. Io li ho guardati, non potevo dirgli: ma come fate a dire che è sbagliato il mio, che quello del mio compagno che l'ha copiato male, va bene. E io mi sono un attimo sregolato in quel momento lì, e quindi mi hanno incominciato a fare delle altre domande, non riuscivo più a rispondere bene alle domande, fino a quando cosa ho fatto? A un certo punto mi sono alzato dalla sedia, sono andato alla finestra, guardato fuori, sono tornato e mi sono tornato a messo a sedere. I professori sono a quel punto erano sconvolti, loro mi hanno detto: ma cosa ha fatto? Io ho detto: ma guardavo fuori se pioveva, dopo devo andare al mare. Da quel momento lì l'esame ha cambiato faccia, i professori non hanno più saputo cosa chiedermi, e praticamente sì, ce l'ho fatta. Ok, ma il dilemma l'hai scoperto? Cosa era successo? Come mai l'esame sbagliato era andato meglio, la prova sbagliata era andata meglio della tua? Ah, io non l'ho mica chiesto, perché se andavo a chiedergli per quale motivo... certo, bravo, hai ragione, giusto. No, mi sono preso il voto più basso, però dopo... Niente, sei andato al mare. Grazie Enrico, ciao, buona... Grazie per essere stato con noi in questa notte prima degli esami. 800 24 00 24 per i vostri ricordi. Torniamo in diretta subito dopo la pubblicità. Radio 24 Day. Le ultime canzoni, le ultime note di questa notte prima degli esami, iniziano ad arrivare i messaggi di chi ci dà la buonanotte. Non si firma, però dice: è tutto per la mia notte prima degli esami, ora è notte fonda, è buio pesto, e su dai, un po' di coraggio, come fa Paolo che scrive: all'esame di maturità nel 1961 ho preso 2 in matematica e 10 in fisica, mi hanno dato 6, promosso. Ecco, vedi, questo Carlo Rovelli sarebbe stato felice. Continua la giostra degli ospiti, abbiamo il piacere di avere qua con noi Gigi D'Alessio. Ciao Gigi, buonanotte. Buonanotte a tutti. Dire buonanotte in questa nottata è anche strana, perché sembra quasi una presa in giro, perché questi stanno studiando. Che ricordo hai del tuo esame, Gigi? Guarda, io gli esami li ho fatti al Conservatorio di Napoli, quindi ovviamente per me era un problema anche studiare di notte, perché suonando il pianoforte, quindi dava pure fastidio. È vero. Però ricordo con tanto affetto che mia madre mi faceva compagnia, mi portava la macchinetta col caffè, cioè all'epoca tutta la macchinetta, non solo un caffè. Però sono dei bei ricordi, sono quelle cose che poi ti rimangono impresse per sempre. E per tu che fai concerti, ogni volta che sali sul palco è una sorta di esame? È un esame tutti i giorni, è un esame tutti i giorni, è un esame da quello che posti su Facebook o su Twitter, è un esame ogni canzone che scrivi, è un esame ogni disco che fai, è un esame ogni concerto, siamo sempre sotto esame. Sì. D'altronde un mio concittadino, tale Edoardo De Filippo, disse: gli esami non finiscono mai. E aveva ragione. E per un artista come te c'è il panico da foglio bianco? Nel senso, quando devi scrivere una nuova canzone, ma non ti viene la prima parola, la prima nota, cosa succede? Guarda, se ti posso dire proprio la verità, a me succede che io vado a scrivere quando ho qualcosa da dire. Ok, certo. Quindi non è che dico, oggi devo scrivere forza una canzone, no. La canzone mi deve... è quasi la canzone che si scrive da sola. Una volta Mogol mi disse, a me mi arrivano i fax dal cielo, disse lui. E quando dovevo scrivere una canzone gli arrivavano i fax dal cielo. Adesso arrivano le mail, sono le mail. Sono più veloci queste comunicazioni. Gigi, c'è una tua canzone che vorresti dedicare agli studenti, per, così come compagnia per queste ultime ore di studio? Secondo me non mollare mai, non bisogna mai mollare. Forse il non mollare mai è un inno proprio alla vita, è un inno ad insistere, perché quando le cose si vogliono fare, si fanno con tutto il cuore. Certo, se uno non ha studiato è inutile che va a fare gli esami, perché a quel punto rischi solo di fare una brutta figura. Ma secondo me, se hai studiato, se sei sicuro di te stesso, le cose vanno affrontate, e quindi non bisogna mollare, bisogna andare ad affrontare a petto in fuori, ecco. Grazie davvero, noi ti salutiamo proprio con le note di non mollare mai. Ciao Gigi. Grazie, buona... a voi, un grazie. Abbraccio. Ciao ciao. Ciao. Quanto tempo ci passava sopra quei tasti che sfioravo, era tutto bianco e nero intorno a me. Mi ascoltavano gli amici, sorridevano felici, quella voglia di arrivare era forte dentro me. Le note di Gigi D'Alessio hanno accompagnato di nuovo qui in studio Piera Ceci. Eccomi qua. Perché hanno metto dei professori, vero Piera? Assolutamente sì, perché insomma anche loro sono i protagonisti di questa maturità. Allora, ne presentiamo uno davvero speciale, finalista al Global Teacher Prize 2015, una sorta di premio Nobel per l'insegnamento. Poi in realtà non l'ha vinto, perché insomma è un premio, arrivano professori da tutto il mondo, quindi non è semplice, ma è comunque davvero un insegnante speciale. Da 28 anni in cattedra per insegnare informatica all'Istituto Galilei Costa di Lecce. Salutiamo Daniele Manni, buonasera. Buonanotte a voi e in bocca al lupo a tutti i ragazzi. Davvero, davvero, un prof molto speciale, Daniele Manni, perché con i suoi ragazzi sperimenta, crea, progetta. Qualche settimana fa l'avevamo sentito perché aveva creato MasterProf, una startup per raccontare le storie degli insegnanti speciali. Poi un giorno ci dovremmo risentire, perché ci dovrà raccontare qualcuna delle storie che nel frattempo sono arrivate, ma stasera non è questo l'oggetto. Allora, un prof speciale stasera sicuramente avrà sentito i suoi ragazzi per capire come stanno vivendo questa notte prima degli esami. Certo, per noi si ripete ogni anno questa sensazione, però dobbiamo metterci nei panni di chi sta di fronte e lo vive invece per la prima volta nella sua vita. E quindi sì, c'è questa grande emozione, c'è questa grande paura, per fortuna, io dico che per fortuna. Perché c'è paura, per fortuna? Perché insomma perché la paura fa lavorare paura, anche un po' meglio, dire, no? Che c'è, come dire, una buona preparazione alle spalle, c'è sempre il timore. Chi arriva senza paura significa che può fregargliene poco, frega della cosa, invece a loro frega tanto. Vuol dire interesse. Ma che stanno facendo i suoi ragazzi in queste ore? Come tutti i ragazzi d'Italia, la stessa cosa, un po' chi sta riunito in coppie, in triplette, in gruppi, chi sta isolato perché ha sempre studiato isolato e quindi per scaramanzia non studia in gruppo, attaccati ai computer. Guai a tutti i ragazzi d'Italia, ormai mi sono convinto di questo, che stanno vivendo tutti nello stesso identico modo. Assolutamente sì. Allora, un consiglio da Nobel per questi ragazzi, per la nottata e soprattutto poi domani, per affrontare con una certa serenità la prima prova? Diciamo che onestamente per le prove scritte c'è poco da consigliare, perché ormai ci siamo, quindi c'è poco da fare. Ovviamente di tenere la calma, di mantenere in pratica il sangue freddo, di tener conto che c'è una quantità di ore sufficiente per affrontare la cosa, quindi non fa nulla se perdono la prima ora nell'orientarsi, nel riuscire ad accapezzarsi, nel fare una buona scelta del tema da affrontare, e poi dopo poterlo appunto affrontare con serenità e cercare di sviluppare concetti chiari. Per i suoi ragazzi non deve essere facile, lei insegna informatica, materia che piace moltissimo, no? Ai ragazzi, però domani saranno nudi, senza telefoni, senza computer, di fronte a questo foglio bianco, è dura. Ma questo non mi dispiace, cioè nel senso che è vero, io uso tantissimo le tecnologie, però quando arrivano questi momenti mi piace affidarmi alla testa delle persone, mi piace affidarmi alla testa, alle capacità di ogni ragazzo che ha di comprendere quello che ha davanti, comprendere quello che ha intenzione di scrivere e lavorarci, come dire, proprio di suo da questo punto di vista. Ma invece, se posso dare un consiglio, come no? Per gli orali, a quello ci tengo. Io consiglio sempre ai miei, a questo punto lo estendo poi in tutta Italia, che i ragazzi possono sempre ascoltare con molta attenzione gli orali, quindi chi ha la fortuna, tra virgolette, di non essere il primo giorno, di poter andare ad ascoltare tutti gli orali, perché questo dà la possibilità di conoscere il docente commissario esterno, conoscere un attimino il suo metodo, il suo stile, le cose a cui tiene di più. Quello giocare un po' di psicologia con questo insegnante. Esatto. Proprio questo. Grazie a Daniele Manni, il prof da Nobel. Allora, grazie, un altro anno ci riproviamo con il premio. Buonanotte, grazie. Buonanotte a voi. Buonanotte. Grazie, prof. In effetti è una nottata lunga anche per i professori. Continuiamo con i consigli. C'è anche il consiglio legato all'alimentazione. Abbiamo convocato uno chef che è anche scienziato. Diamo il benvenuto a Marco Bianchi. Ciao Marco. Ciao a tutti, ciao Federico, ciao ragazzi, mamma mia. Allora, la notte prima degli esami, dove ti porta la memoria? Che ricordo hai di quelle ore? Ahimè, delle giornate abbastanza angoscianti, nel senso che il giorno prima mi ero rilassato con degli amici, quindi anche divertimento, perché si cercava di non pensare appunto al giorno dopo, all'inizio, però la sera stessa mi ero imbottito di camomilla, poi sono un tipo abbastanza ansioso e vuole il massimo da se stesso, quindi insomma, cercavo in tutti i modi di colmare e calmare l'ansia, però alla fine l'adrenalina poi ha vinto veramente su tutto, e il giorno dopo occhi sbarrati già dalle 5 insomma, e pronti a iniziare, però un bel ricordo perché appunto l'hai vissuto poi con le persone, con i tuoi amici, poi si è tutti in uno stato di ansia, quindi non sei l'unico. ma esiste anche un'ansia positiva, cioè quell'ansia che comunque ti fa dare di più, quell'ansia che sì, assolutamente, nel senso che poi a ognuno ovviamente può prendere diversamente, però personalmente avere ansia e stimola poi adrenalina, che comunque porta anche a maggiore concentrazione, quindi poi alla fine sì, è un'ansia positiva, un'ansia che ci permette anche di avere un maggior controllo poi di noi stessi. Uh-huh. Eri già appassionato di cucina all'epoca o è una passione che è nata dopo? È nata pochi anni dopo, ad essere sinceri, pochi anni dopo, però già lì mi piaceva moltissimo cucinare, o meglio, lì cucinavo un po' di tutto, eh. Mm-hmm. Poi l'attenzione per gli alimenti, quelli migliori, quelli che ci permettono di fare prevenzione, è arrivata poi dopo qualche anno, quando mi sono appassionato più agli studi appunto scientifici e alla relazione tra cucina, alimenti e patologie. Certo, e adesso vediamo veniamo a sfruttare un po' del tuo sapere, insomma, bello e buono il tuo blog dove realizza e realizzato queste video ricette per coniugare il buon cibo e la salute. È appena uscito anche Io mi voglio bene per Mondadori, gli indispensabili in cucina, i miei alimenti del benessere e 300 idee per cucinarli. E dacci questa idea, domattina la colazione giusta per affrontare l'esame quale deve essere? Allora, parliamo proprio di micronutrienti, quindi tutti quelli di quei nutrienti che permettono poi durante la giornata di darci attenzione, di non far calare la tensione, mantenerci svegli e soprattutto non appesantiti. Quindi l'idea è partire con un caffè, di sicuro non fa male a nessuno, o un tè, e poi abbinarlo a dello yogurt, preferibilmente vegetale o comunque con pochi grassi se lo scegliamo vaccino, e lo abbiniamo a della frutta fresca, magari delle fragole, delle pesche, perché poi sono ricche anche di vitamina C, e perché no, le abbiniamo a dei semi di girasole, di zucca ricchi di magnesio. Così facendo riusciamo anche, è un trucchetto in qualche modo per evitare di dare sbalzi glicemici che poi una volta che li abbiamo ci portano a far cadere la nostra attenzione, invece abbiamo bisogno di mantenere costante i nostri zuccheri nel sangue. Quindi questo potrebbe essere assolutamente un modo, e durante la mattinata portare dietro con noi della frutta secca, quindi da noci a mandorle a nocciole, è fondamentale, mi raccomando. Non è solo una colazione, è già una tesina questa, cioè è già fatta per presentarsi all'esame. Ma Marco, nei giorni successivi, poi, perché non c'è messo lo scritto, certo, di domani, poi bisogna essere concentrati, ma il caffè è un buon compagno di studio? Abusarne? Sì, l'abusarne no, non è mai una cosa bella, quindi le nostre 3-4 tazzine al giorno possono andare bene se siamo abituati, attenzione, se siamo giovani che non sono abituati a, oltre alla tazzina di caffè, non abusiamone, piuttosto una bella tazzina di tè verde, ecco, un tè verde sicuramente ha un'azione poi antiossidante molto forte, ma contiene anche un eccitante pari proprio alla caffeina. E abbiniamo sempre poi i nostri pasti possibilmente a degli omega 3 che provengano da pesce o da frutta secca o dalla quinoa stessa, quindi a livello vegetale, sono però degli ottimi alleati per questi giorni di studio, perché non appesantiscono e regalano più attenzione, quindi il nostro cervello sarà assolutamente più sveglio. Evitiamo il più possibile tutto quello che è raffinato, quindi andiamo a prediligere i cibi integrali di qualsiasi genere, e soprattutto evitiamo cibi troppo salati e ricchi allo stesso tempo anche di grassi. Quindi la prima cosa che mi viene da pensare sono i salumi o gli hamburger dei fast food, quindi cerchiamo di mangiare in modo regolare in tutto questo periodo d'esame. Grande, grazie Marco davvero per questi consigli, grazie anche da parte soprattutto delle ragazze e dei ragazzi che domani saranno sui banchi per la prima prova. Un lupo ragazzi, e insomma divertitevi anche, perché è anche quello insomma alla fine. E questo è un augurio bello e buono. Ciao Marco, grazie ancora. Ciao a tutti, buona serata. E mentre tutti vanno a cercare semi di girasole, semi di zucca in casa, ognuno nella notte prima degli esami ha la sua impresa impossibile. Prima Fabio Fazio ci diceva che in una notte ha studiato Dante. La nostra impresa impossibile era beccare Beppe Severnini, e forse ce l'abbiamo fatta. Ciao Beppe! Oh yes, sono a Genova, se vuoi ti vai, rispondo tutta l'intervista, la chiaga in perfetto genovese. Ciao Beppe, grazie, insomma ti abbiamo disturbato, ma ci tenevamo ad averti in questa notte prima degli esami. Dove ti porta la memoria, pensando alla maturità? Mi porta una notte bellissima e agitatissima, ed era bellissima perché era agitatissima, cioè chiunque stasera vorrebbe essere tranquillo. In fondo sa benissimo che non è possibile, certo, perché le notti tranquille ce le dimentichiamo, la notte prima degli esami no, non faremo le trasmissioni radiofoniche con questo nome. Ancora senso secondo te fare la maturità? Sì, sì. Perché c'è qualcosa di illogico, di casuale, io per esempio ho preso un voto, ho preso il massimo dei voti che non meritavo, io ero bravissimo negli esami, ero meno bravo a scuola ma negli esami ero bravissimo, e quindi e c'è qualcosa di così di assurdo che in qualche modo riassume la vita che viene dopo, ma è anche una prova, cioè l'imparare a avere paura superarla, affrontare la prova e il sollievo, che è la forma di gioia più pura, la vacanza dopo la maturità è un capolavoro, perché è la vacanza del sollievo. E questo è irripetibile, quindi la maturità dovrebbero farla solo per questo. Tutto il resto è chiaro che i ragazzi bravi, o comunque i ragazzi che ha studiato, il 99% sono in grado di andare e finire, prendere il diploma, andare all'università, fare quel che vogliono loro, e che non è una vera prova, è una prova psicologica, una sorta di guado che mm-hmm. tutti devono fare. Se ti mettere il ponte sopra il guado, che palle. Certo. Stavo pensando che, insomma, in questi ultimi anni, soprattutto sui quotidiani, va un po' di moda far realizzare la prima prova, lo scritto, a scrittori, a giornalisti. Hai timore che domattina possa squillare il tuo telefono e il direttore ti chieda di svolgere il tema di italiano? No, perché il mio direttore intelligente, un mio amico, sa che non glielo farei. Quindi evita. No, ti spiego. Io ho scoperto che nelle prove in Valsi hanno usato il mio articolo, mi sembra per quest'anno ho dato, quindi in materia. Perfetto. Però se tu hai un pochi secondi, vorrei dare un consiglio che ho scoperto che negli anni molti maturandi mi hanno detto: Beppe, guarda, questa roba qua ci ha ribaltato la prova scritta all'italiano, e allora io vorrei provare a darlo, se vuoi. Certo. È molto semplice, quando domani, qualunque sia il tema, qualunque sia la scuola, qualunque sia la prova, che siate ragazzi o ragazze, ricordate la regola del porco. La regola del porco è quella che vi farà fare un ottimo tema di maturità. Regola del porco, chiaro? È un acronimo, mm-hmm. però si ricorda bene, porco. Posso spiegare? Vai. Allora, porco, P come pensa, O come organizza, R come rigurgita, C come correggi e O come ometti. Cioè, per scrivere, quando tu, Federico, scrivi, quando io scrivo, quando scrivo un ragazzo a maturità, la regola è sempre la stessa. C'è l'equivalente anche in latino, ma non voglio fare la persona colta. Queste cinque regole, pensa, cioè quando ti danno il tema domani mattina, non scrivere niente per 10 minuti, stai fermo mm-hmm. e pensa, non è vietato il giorno della maturità, impediscici di scrivere. Sono 6 ore di tempo, quindi insomma c'è il tempo per pensare. Pensa, mm-hmm. quarto d'ora, proprio dici, è vietato prendere in mano la penna, io penso. Cosa devo dire? Penso. Poi organizzati, fai una scaletta. Sì. Rare rigurgita sarebbe vomita, ma poi porco diventava posto, che non sta bene. Cioè vuol dire butta fuori, cioè la scrittura è una chiunque lo fa di mestiere l'ha imparato, è un momento gioioso, non devi pensarci troppo, tu hai pensato, hai organizzato, il momento della scrittura devi buttare fuori, quindi senza pensarci, rigurgita. Poi la C è correggi, il momento apollineo, devi controllare e riflettere, quello è il momento dionisiaco, butti fuori, rigurgiti, poi correggi, e per fine ometti. Quindi omettere vuol dire togliere, scrivere come scolpire, bisogna levare tutti gli aggettivi, tutti i che, tutti gli avverbi che levate renderanno il vostro tema, composizione, testo, quel che volete, migliore, perché a quel punto è come levare la zavorra, vola via, bingo, maturità fatta. Ti è piaciuto? Un ottimo insaccato. Grazie davvero Beppe Severnini per questo consiglio da notte prima degli esami. Ciao Beppe. Ciao regola del porco. Ciao, ciao, ciao. Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra. Le tradizioni vanno mantenute, quindi per il quarto anno consecutivo chiudiamo questo speciale con le note di Venditti. Su questa musica ringrazio Piera Ceci per essere stata qua con me in questa maratona. Ringrazio tutta la squadra di Radio 24, Silvia Righini, Peter Bescapè, Silvia Camesasca, Cristian Goldoni, che hanno partecipato, insomma, a questa notte prima degli esami, e chiudiamo questa lunga notte con Federico Russo, The Voice della notte. Prima degli esami, buonasera. Ciao Federico, ciao. Buonasera, ciao Federico, ciao. Buonanotte prima degli esami a tutti i maturandi. Ti ho lasciato Venditti, mi sembrava adatto a te anche, insomma. Penso di averlo consumato, di aver consumato quella canzone, soprattutto nella notte prima degli esami, in quei giorni lì, a parte una delle mie canzoni italiane preferite, quindi la stavo infatti canticchiando, non eravamo ancora collegati, ma la stavo infatti canticchiando da solo. Che notte è stata per te la notte prima degli esami, cosa ricordi? Ma io in realtà della notte prima dell'esame di maturità, e si parla del giugno del 99, non ricordo quasi niente, cioè ricordo una grandissima confusione di non aver mai dormito, di essere stato a parlare con amici sulla mia stessa barca fino a tardi, e più che altro ricordo la maturità, ma le notti prima degli esami scritti, degli esami orali, proprio zero, tabula rasa, penso di averle totalmente cancellate. Io poi mi ricordo che il giorno stesso della prima prova avevo poi, dopo l'esame, nel pomeriggio, fissato l'esame pure della patente di guida. Così, quindi tutti insieme, giusto per... hai ottimizzato, eh? Tanto per non prendere, proprio per non perdere l'abitudine, insomma. E ricordo di aver fatto un tema sull'ecologia, mm-hmm. Usando, ovviamente anch'io stavo sentendo prima Severini, giustamente la regola del porco, solo che non ho pensato un quarto d'ora, ma ho pensato penso un'ora e mezzo, perché si pensa tanto soprattutto a quale tema fare, perché ognuno, cioè ogni titolo ha un qualcosa che potrebbe essere tuo, però poi dici sì, e poi come vado avanti, e poi come le riempio 4-5 colonne del foglio protocollo, e mi ero buttato così sull'ecologia, sì. Sai che Federico, quest'anno per la prima volta all'esame di maturità ci sono i licei musicali, quindi i ragazzi che arriveranno e potranno portare stereo, potranno portare file MP3, potranno cantare, insomma è una dimensione che conosci bene. Vuoi dare un consiglio a questi che per primi, insomma, inaugureranno questo nuovo modo di fare l'esame di Stato? Beh, sicuramente saranno più tranquilli loro che me, che mi trovai davanti a una versione di Senofonte, quindi il consiglio è di portare quello che magari hanno suonato tutto l'anno studiando o comunque con i loro progetti musicali, le loro band, non so poi quanta libertà verrà data, no, nella scelta dei pezzi da portare. Però mi sembra una cosa molto interessante, l'equivalente della seconda prova, no? Che c'è sempre stata, quella proprio sulla materia su cui è orientato il liceo o comunque la scuola che si fa. Certo. Il consiglio che ci dà a The Voice è quello: vai e divertiti. Ora, l'esame di maturità proprio un divertimento non è se non quando finisce, però poi diventa un divertimento ricordarlo. Questo sì, insomma, la parola divertimento è ritornata ogni tanto questa sera, perché comunque l'esame di maturità è un'avventura, quindi ci vuole anche un po' questo elemento, non dico ludico, però riuscire a portare la giusta dose di leggerezza, che è la cosa che poi alla fine la liberazione, diceva giustamente Severini, la maturità, la vacanza che arriva dopo, no? Che solitamente è la vacanza più lunga, perché è quella che ti separa dall'università, che inizia un po' più tardi, per cui è la vacanza quella che non si scorda mai. La vacanza inizia proprio dal momento in cui tu finisci l'orale, sei ancora in trance agonistica. Io avevo fatto un orale pessimo, mm-hmm. mi ricordo, ma veramente pessimo, che è stato quello che proprio mi ha abbassato la media, mi ha fatto prendere un voto appunto pessimo, perché non so, forse ero già proiettato nella fase della liberazione, ma non mi ero accorto di aver fatto un orale pessimo. Quando poi sono andato a vedere i risultati, la mia era la prima maturità col nuovo punteggio, sì. Cioè quello in centesimi, uh-huh. Ho visto che era andato tutto bene, la prima prova scritta, la seconda prova scritta, la terza prova, e poi l'orale è una media, forse il peggiore di tutta la scuola, perché non mi ero neanche reso conto di aver fatto una figuruccia. Quindi forse ero già liberato nel momento in cui sono entrato in quella classe, magari dovevo aspettare un po'. però insomma mi ricordo di aver preso un 60 centesimi che ancora camuffo orgogliosamente in 60 appunto, quindi bravo. Esatto, bravo, ottimo trucco. Grazie a Federico Russo per aver chiuso con noi questa notte prima degli esami. Ciao Federico. Ciao, ciao, in bocca al lupo, ciao, ciao. È stato bello come sempre essere qua con voi. Adesso sta a voi, in bocca al lupo per domani. Metteteci passione, metteteci divertimento, metteteci sapienza, metteteci anche il porco che abbiamo saputo, abbiamo sentito essere un ottimo consiglio. Insomma, metteteci voi stessi. Ancora ciao, ancora buonanotte da Federico Taddia.